Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Bentornati signori miei, è domenica 4 giugno, sono le 14:36 primi e una manciata di secondi. Oggi è una domenica molto bella, molto ricca, e colgo l'occasione come sempre di cominciare questa trasmissione salutando le persone che qualcosa, anzi tanto, ci hanno regalato con la loro voce, ma non solo, anche col loro corpo. E il 4 giugno del 1994 ci salutava uno dei più grandi interpreti del nostro cinema, e non solo, Massimo Troisi, e volevo cominciare così questa trasmissione oggi. Nuda, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente, hai linee di luna, strade di mela. Nuda sei sottile come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba, hai rampicante stelle fra i capelli. Nuda, sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Va bene, scusate questo mix fra le due voci, ma Massimo, mi permetto di chiamarlo per nome soltanto perché è stata la prima persona che mi ha chiamato 36 anni fa dandomi un posto da titolare nella Nazionale Calcio Artisti. Ho capito che non ero un grande attore, ma ero un grande ex calciatore. E da lì è nata un'amicizia molto bella, molto intensa. E ancora ricordo quella telefonata di quel 4 giugno del grande Pino Daniele, che anche lui ci ha salutati troppo presto, dicendomi che Massimo se n'era andato. E va bene. Comunque, un grande sorriso, così vale la pena ricordare chi ce n'ha fatti fare tanti. Vicino a me due ospiti eccezionali. Uno sarà ospite, ma per adesso è co-conduttore con me, che è Massimiliano Pani. Benvenuto Massimo. Guarda, piacere essere qui con voi. Grazie. Vero? No, sì. Grazie a te, venire da Lugano, insomma. Per gli ascoltatori, oggi ci sono due grandissime voci, due grandissimi doppiatori. È vero. Che è l'altro ospite che adesso tu presenterai, e poi il brutto Natroccolo. Quindi quando sentite una voce che vi dà fastidio, sono io. Sì, in effetti sembra più leggero. Presentalo tu, se vuoi. No, non mi permetterei, con una voce importante. Allora, abbiamo cominciato con Massimo Troisi, il postino, Nuda, Neruda. La fatalità vuole che al mio fianco c'è il direttore di doppiaggio di quel film. Il film è importantissimo, non solo lui, grande attore, grande doppiatore e grande direttore di doppiaggio. Io l'ho avuto qui le prime due puntate di Voice Anatomy, passai così tanto tempo che insomma era giusto che tu tornassi. Rodolfo Bianchi, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ecco, sentite la voce. Hai capito perché sono il piccolo... Non sei rallentato, non andare a 16 giri e che proprio lui va così, insomma, non è un disco a 45 che mandi a 33, no? Voce stupenda. E tu hai diretto quel film difficile da dirigere. Perché? Per quale motivo? Massimo morì le ultime inquadrature del film, il film però bisognava doppiarlo perché c'era Philippe Noiret, eccetera, per cui non poteva essere lasciato in originale. Il film è tutto doppiato, tranne Massimo. Massimo aveva inciso tutto in presa diretta, però avevano, a quanto mi raccontavano, avevano privilegiato lui perché aveva poca forza, poca energia, per cui anche gli altri tutti abbastanza sfocati. In più il regista era un regista inglese, Michael Radford. Esatto. E per cui avevano bisogno di un italiano che riordinasse un po' tutta quanta la situazione, e devo dire che lì ci fu un grande lavoro di chi sistemò la presa diretta di Massimo. Addirittura non ricordo se era proprio questa la poesia o un'altra cosa. Il momento con Neruda, che poi è stato doppiato Filippo Neruda da Bruno Alessandro. Sì. Lì lui aveva registrato in camera d'albergo, una volta c'era il Nagra, no? Il registratore professionale. Quindi devo dire, chi ha fatto la presa diretta di quel film fece un grande lavoro, e tutto il resto sono venuti tutti gli attori di presa diretta a ridoppiarsi, chiaramente. E poi tutto quanto, mi ricordo... Però bisogna uniformare, per la gente tutto, che sta a tutto. Casa, che magari non sa tecnicamente, devi uniformare una presa diretta con un doppiato, che con è difficile, perché lì c'è, certo, il rumore di fondo che è quello del mare, quello del vento, con, eccetera. Con alcuna, una presa diretta fatta a volte anche, ti ripeto, in camera d'albergo, perché non aveva più forze, Massimo. Quindi, e poi tutti, tanti attori venuti da Napoli per fare tutti i brusi, le piazze, i pescatori, le cose. E devo dire, è stata una bella impresa. E mi ricordo che era tutto il mese d'agosto, perché doveva inaugurare Venezia. Eh sì, e poi resta storia. Una fatica. Ci credo, perché mi ricordo che mi dicevi, abbiamo riregistrato il mare, messo intorno anche chi parlava, il vento, loro sì, avete ricostruito la presa diretta, sì, sì, sì, avete ricostruito tutto. Bravi, tutti molto bravi a fare quel lavoro. Sono passati già 23 anni, dottor Pani, da quel giorno. 23 anni, sono tantissimi. Mi sembra avere la voce di Paperino a me, sentendo. No. Due. Tu rallentati. Siete stupendi. Siete... Puoi picciare la voce in basso di Massimiliano, sì, perché si sente un po' così. No, ma che scherzi. E quella fu... Vabbè, tu già eri un grandissimo direttore di doppiaggio. Sì, ci sei stato giovanissimo. Eh sì, a quanti anni hai cominciato, la prima direzione me l'hanno offerta che avevo 28 anni. 27 anni. Eh sì, poi i 28 anni di 50 anni fa, insomma. Eh sì, ma... No, è solo del 52, del primo settembre, che tu virgineo come virgineo, me. Sì. Tu che anno sei? Aspetta, 63. Dico io, il 63, però di aprile tu sei... Ariete, va bene. Tanto non ci capisco niente, non so che vuol dire, però so che la Vergine però è precisa. Tu dillo. Fa sempre, ma con le donne fa scena fra di noi, non credo più di tanto, Rodolfo? No, assolutamente. Ci sentiamo un Rodolfo Bianchi dannate. Io me lo sentirei su Harvey Keitel, che l'hai accompagnato spesso e volentieri, anche nell'ultimo film a Sorrentino, mi sembra. Io sempre so, tu. Sì. L'hai diretto e te lo sei cantato e te la sei suonata. La so suonata. Ma non si può fare così, però. Vabbè. Sentiamo invece Harvey Keitel, un film bellissimo, forse il migliore di Abel Ferrara. Esatto. Che è Il cattivo tenente. Eccolo. Grazie, sapete Alessandro. Sapete che avete le luci posteriori spente? Ah, davvero? Sì. Non lo sapevamo. Ma grazie di avercelo detto. Fammi vedere la patente e il libretto. Fammi vedere i documenti. Ecco, vede, non ho la patente qui con me. Non ce l'hai? No. Tu ce l'hai la patente? No. Non ce l'hai. Senta, neanche tu? Di chi è la macchina? Senta, la macchina è di nostro padre, ma noi non abbiamo la patente. No? Sa che l'avete presa? Sì. Lo sa? Sa che avete preso la macchina? No, non proprio. Ma non l'abbiamo rubata. Siete due stronzette bugiarde, eh? Siete due belle bugiarde, eh? Dov'è che abitate, eh? New Jersey. Sì? Avete droga in macchina? No, no. Niente droga? No. Dove siete andate stasera? Al Cat Club. Dovrei sbattervi dentro per guida senza patente e senza libretto. È contro la legge, non lo sapevate? Che personaggio terribile questo che era, mamma mia. Passato 20 anni pure da quello. Sì, no, il 90, o il 95 o il 93, non mi ricordo. Sono a quegli anni lì. Sì, fa pure campo col microfono, non so, si sente uguale, è andato all'altra piazza a parlare, capisci? Ha una presenza di voce. Che sì, è quello, sì. Pure i fiati sono troppo timbrati, io poi sono cresciuto con lui, per cui ogni tanto mi tocca imitarlo in qualche modo, e me strillano, e dice Pino, soffiato ci sai andare a dire ciao, io non ci riesco, faccio ciao. Ciao, non mi riesce, capito? Per colpa sua. E quando faccio certi personaggi mi ispiro a Rodolfo in qualche modo. Anzi, poi me ne prendo pure tanti che ha doppiato lui per strada. Ma no, complimenti, Pino, ha fatto quel film Tommy Lee Jones, è straordinario. Io dico sì, vi ringrazio. No, non dico che è lui, capito? Cioè, faccio... Non lo so, è un falso, potresti denunciare, però che devo fare? Allora, restate con noi, il primo blocco se n'è andato, ma ce ne sono tantissimi altri, ma mille ce n'è. Anche questa favola se n'è andata, ma restate con noi perché Voice Anatomy è appena cominciato. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, 14:47 primi e 5 secondi, alla mia destra Massimiliano Pani. Aspetta, sto prendendo appunti. Parma La Spezia 9 km. Ah, okay. Mi è scappato un attimo. E non era un X2, no. No, questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Questo è il traffico, Max. Vedi, ma. No, vabbè, no, non hai capito. No, adesso però. Adesso lo segno. Sì, me lo segno. Rodolfo Bianchi alla mia sinistra, qui tanti complimenti arrivano. C'è un messaggio più interessante, comunque anche i complimenti fanno sempre piacere. Troisi, stanza d'albergo, poche forze. Mi dite se Troisi era consapevole di. Sì, lo era. Era consapevole. Era assolutamente consapevole di quello che poteva capitargli. Insomma, glielo dissero, doveva fare proprio un cambio netto di cuore. E gli dissero: non è detto però che quell'operazione possa riuscire in qualche modo, e non è detto che tu possa continuare così. Lui scelse di avventurarsi nel film con nel tutto film. Il cuore che aveva, che ce l'ha molto più grande di quello che aveva, insomma. E così è andata. Allora, lui ha cominciato a 28 anni ad essere direttore già, e tu invece, Massimiliano, ad essere arrangiatore? Io anch'io ho iniziato piccolo, ero sì. ragazzino, ho iniziato prima come autore di canzoni, e le cose più belle le ho fatte per mia madre Mina, però sì. ho lavorato spesso con Piero Cassano, che è sì, il tastierista di Mattia Bazar, certo. e abbiamo fatto tante cose insieme anche per vari artisti in Francia, in Spagna. Sì, ma la cosa bella che le diciamo, prime cose le facevo come autore, tanto dopo ne parliamo lungamente di tutte le canzoni dei bambini che hai fatto. Ho fatto anche canzoni per bambini, ma bisogna farle. L'altro giorno con Fabio Concato, lui ha cominciato con Adras un Forbo a fare i cori, per cui insomma De Chioni aveva fatto Barba Papà, ma io ho cominciato con i porno, non solo Rodolfo Bianchi, questo era il tuo startup, con coraggio, come attore, come doppiatore o come, come hai cominciato? Come attore? Sì. Tu hai fatto l'accademia? No. Bravo. Bravo nel senso sei bravo comunque. Dico. No, ma io raccontavo prima a Massimiliano che col papà, con Corrado, e lui faceva, era già Corrado Pani, io facevo il bambino, ma abbiamo fatto uno sceneggiato insieme, quindi io ho iniziato da bambino con gli sceneggiati, con Paolo Stoppa, Rina Morelli, e poi man mano sono andato avanti, mi fare il Marco Aldo con Nanni Loi. E... Sì, e tu hai fatto l'attore, sì, poi, a tutto tondo. Poi, tanto, com'è nato tanto teatro. Che me lo sono dimenticato, me l'hai detto, ma... È nato anche sempre lì da... In parallelo. Sì, sai, quando fai l'attore... Ti chiamano poi a doppiare perché... Non c'avevi sta voce quando sei nato, no? Ma era un po' più profonda poi. Pensa quando è nato, hanno tirato fuori e ha fatto uè, uè, uè, dai. Sì. E quindi poi è andata avanti così, insomma. Ma tu chi sei però? Tu sei un attore, sei un doppiatore, sei un direttore, sei un dialoghista. Che vuoi fare da grande? Ancora non lo so, però ci arriverò prima o poi. Sì, eh? Sì. Perché poi il direttore di doppiaggio è come se fosse il regista, ma se diventi l'alter ego di Scorsese, l'hai seguito in mille film, no? Sì, tutti gli ultimi più importanti l'hai fatti tu. Sei il responsabile di una versione italiana di questo, certo. questa forma di opera altra, come è il doppiaggio. Opera altra? Sì. Mi piace altra. Questa cosa, opera altra. Opera altra, perché noi non... Tanto io sono dell'idea che non bisogna imitare, quindi noi facciamo una versione congrua dove le emozioni e le atmosfere sono riproposte in maniera corretta e giusta, la facciamo in italiano sui tempi, i ritmi e le cose che ci indica un attore che è straniero. E quindi dobbiamo riproporre qualcosa, quindi diventa opera altra. Per quanto, io dico sempre, per quanto bravi possiamo essere, non saremo mai come l'originale. L'originale è originale. Noi potremmo avere al massimo valore di copia conforme, che può diventare originale solo in assenza dell'originale. Qui salutano, vi salutano un po' di persone. Adesso che il protagonista è Rodolfo, anche se di rimbalzo ci sei tu vicino a me, di rimbalzo nel senso poi parleremo con te della tua carriera. Stavo pensando a Rodolfo, mi piace che sei da ragazzo vicino. Ha imparato a far l'attore con Paolo Stoppa, Rina Morelli. Esatto. Cioè, pensa che scuola. E con Corrado Pani. Un ragazzo non lo potrebbe fare più. No. Cioè, non ci sono più quei giganti. Non c'è stato ricambio generazionale in niente, ma anche nella musica. Poi i talent sono, no? Anche quello una cosa che ha rallentato tantissimo. Però, sai, qualcosa c'è di buono, per carità. Questo lavoro artigianale che c'è nel teatro, no? di imparare veramente... per osmosi, vicino sì. dei grandi attori, non c'è nella musica. Cioè sì, a insegnare a cantare in verità non si insegna, No, perché non ci sono troppi featuring, non è che se Mina canta, no, perché... c'è sei cantanti che imparano mentre cantano con lei, insomma, no, non è lì, così. Il discorso della voce che stiamo facendo qui cambia completamente, no? Ci sono degli strumenti molto belli, anche della gente che non ha una bella voce, ma canta molto bene, per esempio Battisti, no? Esatto. Lui le sue canzoni se le cantava benissimo, benché non fosse un cantante con una voce particolarmente... Però poter imparare il tuo mestiere a fianco dei giganti come quelli nella musica non c'è. Cioè... Sì, mentre come attore è vero, puoi fare uno sceneggiato dove vicino a te c'è tutta gente con l'Empals, per cui giustamente... Sì, a questo punto me lo sentirei io, Corrado, sai? Abbiamo preso un momento proprio un di uno sceneggiato. Per me risentirlo, sentire papà Corrado Pani, l'amico Corrado Pani, il collega di Rodolfo Corrado Pani, un pezzetto dei Fratelli Karamazov. Siete voi che mi avete fatto chiamare? Voi chi siete? Non mi conoscete. Sono Dmitri Karamazov. Sono venuto per... Siete voi Dmitri Karamazov? Beh, io ho delle cambiali vostre datemi da vostro padre per la riscossione. Collaboriamo, Fyodor Pavlovich ed io, non lo sapevate? Ma io non devo un soldo a mio padre, non un soldo. Quando ero ufficiale mi faceva dei prestiti, rubando il denaro dall'eredità che mi aveva lasciato mia madre. E pretendeva delle cambiali. Questa è nuova, ma è a Grafiena Aleksandrovna. Furto garantito da cambiali. Uno sporco raggiro di cui io sono la vittima. Eccolo, che bello riascoltare papà, guarda. E qui è un ragazzino, era anche lui. Voi pensate che lui è stato l'unico che ha interpretato sia il figlio che il padre di Fratelli Karamazov, poi quando è diventato grande, per cui un passaggio di consegne che si è dato da solo, un grandissimo uomo, un grandissimo... Ci manca tanto, a me come amico e a te come papà, e poi come collega tuo soprattutto. Vabbè, a me... l'ho conosciuto proprio, ero piccolo, ho degli aneddoti con Corrado strepitosi, perché Paolo Stoppa fumava le Turma, che erano delle sigarette, non è pubblicità. No, non ci sono più, ma queste sigarette che erano piatte, sì. E siccome io ero piccolo si è avvicinato al microfono, si sente chiaramente, ero la mascotte, no? La Corrado che invece era... Già navigato, ma vogliamo dire anche un grande paraculo. È il numero uno, allora, secondo noi lo possiamo dire. È un complimento. Ma che scherzo. Mi istruiva e mi faceva passare sotto il tavolo della sala prove. Io sgattaiolavo sotto, andavo a rubare dall'altra parte le sigarette. No, per portargliela a lui. Sì. Mi faceva così a me allo stadio, quando andavamo allo stadio. Chiedi una sigaretta a quello, ma non puoi fumare. Pure i cosi, i stuzzichini lì, non è una cosa. Ma lui è così, era così. Era forte. E lui imitava benissimo Stoppa, faceva l'imitazione di Stoppa uguale. Ah, sì. Ragazzi, no. Era forte. Vabbè, ci manca tanto. Qualcuno mi chiede il tuo momento di Bruno Ganza nella caduta. Noi ce l'abbiamo. Quanto dura? Perché siamo in chiusura del un minuto. E allora dai, accontentiamo il nostro ascoltatore, anche Rodolfo, film bellissimo con Bruno Ganza e la caduta di Adolf Hitler. Le forze armate mi hanno mentito! Tutti mi hanno mentito, perfino le SS! I nostri alti comandi militari sono composti da una cozzaglia di vili, pavidi e infidi vigliacchi! Mein Führer, sono soldati che versano il proprio sangue per lei! Sono soltanto dei codardi, dei traditori, degli incapaci! Mein Führer, quello che sta dicendo è inaudito! I nostri generali sono la feccia del popolo tedesco! Sono uomini senza onore! Si fanno chiamare generali perché hanno trascorso anni all'Accademia Militare al solo scopo di imparare a usare correttamente cucchiaio, coltello e forchetta! Per anni le forze armate hanno intralciato le mie iniziative! Non hanno fatto che crearmi ostacoli in tutti i modi possibili per impedire le mie mosse! Se soltanto a suo tempo avessi anch'io liquidato i generali e tutti gli ufficiali delle forze armate come Stalin! Che paura! E sei matto! Mamma mia! Ma questa era una tua idea o perché Bruno Ganz aveva portato su la voce? Aveva portato su la voce. Ed era, beh, erano gli ultimi anni in cui lui stava male, Hitler, no? Già cominciava a tremava, erano gli ultimi momenti di follia. Ecco, si avvicina. Quindi aveva le crisi isteriche. Dobbiamo andare in pubblicità, sì, no, infatti devi seguire loro in qualche modo. E allora a tra poco con Massimiliano Pani e Rodolfo Bianchi, a tra poco. Sanatomi. Eccoci, come promesso, le 15:15 Massimiliano Pani che mi accompagna in questa avventura lunga tutto il pomeriggio. Poi lui rimarrà a Roma per altre cose, per altri lavori, ma ho detto tu stai qua fino alle 5 insieme a me. Parleremo di te, ma tu sarai con me traghettatore di questi ospiti. E Rodolfo Bianchi, ci vorrebbero altre 16 puntate per tutto quello che ha fatto. È una cosa. No, vabbè, mi ricordo quando mi chiamò all'inizio su un personaggio, era Stephen Rea, che aveva 30 anni più di me. E tutti gli hanno detto: ma perché Pino Insegno? Perché dice: questo attore in questo momento fa il bambino, nel senso, è di fronte alle vittime, al mostro di Rostov. E lui era l'anatomista e basta, però comincia a fare ricerche lui, ma si mette di fronte a questi cadaveri come un bambino, ci piange eccetera, serve una voce più giovane che lo alleggerisca invece di un cinquantenne che fa la voce leggera. E ci ha avuto ragione in qualche modo. Però diretti da lui, insomma, Rodolfo Bianchi abbia avuto proprio ragione. Ma tu lo sai, l'arrangiatore, l'arrangiatore. Ormai siete due grandissimi nel vostro campo. Però è come l'arrangiatore per quanto ti riguarda. Avete, no? Messo la mia voce per farvi la contraltare, esatto. Per esagerare. Esatto. Per senti che voce di merda che è questo qua. Mortificare. Vicino alla nostra. Così, infatti, mamma, quando torni a casa, dice: ma perché sei andato ospite da Pino? Esatto. Scusa, potevi andare da Linus. Ma, no. Almeno non se ne accorgeva nessuno, no? Cioè, te la voce leggera, tutti e due. Ma non è quella, non è la bella voce, le voci con le intenzioni giuste, no maestro? Certo. Sta tutto lì, quando tu fai il cast di un film come Departed, per esempio, tu ti hai messo da Giannini a Pino Insegno là dentro, si è andati dalla su alla sotto, no? Disastro. Ma che dici questo? Ma guarda che disgraziato. Senti, quando sei venuto qui ospite la puntata di due anni fa quasi, ti ho fatto leggere le istruzioni della lavatrice. Ha avuto un grande successo, certo. Mi hanno detto. Ma che sì, perché insomma abbiamo dimostrato come una voce può raccontare e come un bravo musicista può fare una musica per bambini, ma è una musica che resta, come prima che non la sapevo quella del corpo umano. Ah, quella di Siamo fatti così. Eccola. Fatti così. Dentro abbiamo il cuore, solido motore. Siamo fatti. È Cristina? È Cristina D'Avena, sì, da ragazzo io avevo fatto una ventina di pezzi con lei. Anche perché avevo mio figlio piccolo Axel in quel momento, che a scuola diceva: mio papà fa le canzoni per gli altri. E gli chiedevano: per chi? E quando dicevano, non so, Mina, Anna, Oxen, dicevano: e chi sono? E allora ho fatto un po' di canzoni per bambini, così almeno lui aveva un suo piccolo momentino di. Ma siamo fatti così, non lo sapevo. Io dico: il corpo umano è un successo enorme. Poi che hai fatto di questo genere? Tante. Ne ho fatte tante con Cristina D'Avena in quel periodo lì. Poi dopo ho fatto musica per pubblicità. Sì, sì, va bene. Sceneggiate, colonne sonore, quant'altro. Quella che voi parodiavate con la premiata ditta, sai, Vivere. Vivere, vai, vai, ce l'abbiamo, Vivere, eccola, questa è Mina. Sì, ma voi la parodiavate, certo, però. Beh, ti piace vincere facile, però. No, abbiamo fatto ancora con Francesca Draghetti che cantava e vai, e vai, e vai. Era sopravvivere il nostro, in qualche modo, è quello che facciamo quotidianamente. Però non sono cose facili, questi sono come gli spot pubblicitari che in 5 secondi devi raccontare drammaturgicamente un pezzo intero, come uno sketch. Ma è, guarda, difficile. Io non sono un concertista, quindi se sei Danilo Rea, tu fai il pianista e basta così, cioè sei già così un grande. Però che non c'hai lavorato. Di... No, no, è un mio caro amico, oltre che un musicista che stimo tantissimo. Però volevo dire, se sei un concertista ad alto livello, ti concentri su una roba. Se no, secondo me è divertente fare un po' di tutto, cioè passare da un disco a una pubblicità, quindi devi in 30 secondi trovare un'idea. Anche a meno. Una fiction, a un film, dove invece hai dei tempi dilatati. È molto molto stimolante, no? L'esercizio di stile aiuta in questi mestieri, assolutamente, come diciamo di Rodolfo, dirigere, sì. Scrivere o essere un attore. Prima abbiamo a sentito servizio. La voce di Rodolfo completamente stravolta per esigenze di copione. Eh sì, certo. Quindi deve essere un bel challenge, deve essere divertente. Eh sì, lui c'ha lo switch, pure lui. Però una delle serie TV, quelle storiche, della madre delle serie TV è Lost. Sì. E tu eri il protagonista, no? Sì, John Locke. Diciamo è abbastanza corale, ma è uno abbastanza importante. Era il motore immobile. Guarda, io ho fatto una John Locke. Era la quinta stagione, muoio sotto una macchina dopo due anelli. Per cui bene. Dicevano: guarda, forse rimane morto subito. Va bene così. E invece ce lo sentiamo il grande John Locke in Lost, interpretato magistralmente da Rodolfo Bianchi. Funziona. E adesso che si fa? C'era un codice, me l'ha fatto digitare. Quale codice? Ti ricordi qual è? 4 8 Aspetta un secondo. 15 16. Cosa, sul serio? Fermati. Ugo, non è il posto nel momento. Sì, beh, io dico di sì. 23. Che cos'è questa apparecchiatura? Non ne sappiamo niente, insomma. 32. Sai che ti dico? Non importa, fa come ti pare. Non è 32. È 42. Me l'ha appena detto Desmond. L'ultimo numero è 42. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Fallo tu, Jack. Come? Devi farlo tu. Premilo tu quel tasto. No, hai visto il filmato, Jack. Servono due persone almeno. Questa discussione è inutile. Said, no. Jack, no. Non è reale, senti. Vuoi premere il tasto? Allora fallo tu. Se per te non è reale, perché sei tornato qui, Jack? Perché crederci ti è così difficile? E perché per te è così facile? Non è mai stato facile! Non è mai stato facile. Mai. Assolutamente, ma Lost è stata veramente la madre delle serie TV, quello sì. Poi infatti adesso stai facendo Genius. Genius, dove faccio sempre Geoffrey Rush. Geoffrey, com'è? Jeffrey o Geoffrey? Geoffrey. No, tanto io sbaglio sempre. Comunque... Genius è bello, la storia di Einstein. Sì, bello, bella serie, sta avendo anche un grande successo. Devo dire che... E spezzare una lancia fuori tuo figlio, perché Alessio Bianchi, che è il tuo direttore... È Genius, il tuo direttore. Sì, è vero. È stato il mio direttore anche nell'ultimo film di Viggo Mortensen, in Capitan Fantastico. Cresce bene. Un altro figlio d'arte, no? Che merita tutto quello che ha, come lo merita qui Massimiliano. Beh, nel teatro c'è sempre stata la tradizione, guarda, sì. De Filippo. Ma d'altronde, se tu c'hai papà notaio, cioè, continuerai magari, c'è la possibilità che tu continui a fare notaio o fai il medico, eccetera, per cui non è, come dicono del doppiaggio, una setta, assolutamente no. C'è la possibilità, io sono un figlio d'altri, per cui ci sono entrato ugualmente, c'è grande rispetto e meritocrazia. Anche io sono figlio d'altri. Per cui, va bene. Militare, però tuo figlio sta mantenendo alto il cognome. Sì, devo dire, lui viene dalla musica, quindi nasce un po' dalla musica e poi si è appassionato, poi ha fatto tanti... La musica aiuta molto in tutto tanta questo. Tanta con i documentari, con le cose, con... Sì, non nasce dall'oggi al domani, non nasce assolutamente. No, sono anni e anni. È arrivato in questi ultimi 2 anni, ma insomma sono almeno 10-11 anni che tira la carretta. Tu invece non hai mai pensato a fare l'attore, ma ti sei sentito musicista. Guarda, immediatamente, come tuo figlio quando Axel. Quando ero piccolo... Mi venivo a fare il mese a Roma con mio papà e di solito lui stava provando in quel mese. E mi ricordo che mi sedevo in platea con il mio Topolino, perché ero piccolo, avevo 7-8 anni, e mi rendevo conto che erano molto bravi, non mi apparteneva. Poi una volta sono andato e c'erano le prove del Peer Gynt, dove c'erano le musiche di Grieg, e lì rimasi affascinato. Cioè proprio mi coinvolgeva, ed era però la parte musicale. Io l'ho sempre visti come bravissimi. Ma non mi apparteneva, invece la musica mi ha preso fin da subito. Beh, hai avuto la fortuna e la sfortuna di notare questo, perché il tuo padre in scena stava con Salvo Randone, con Rossella Falk, con Luchino Visconti alla regia. Insomma, non è... Guarda, è stato molto, stavo dicendo prima di Rodolfo, no? Il fatto di stare anche da ragazzini piccoli vicino a dei giganti, guarda che... È molto formativo, sì, molto. Io non ho fatto l'attore, però ho visto delle persone che avevano dei punti di vista della vita, che dicevano delle cose che erano veramente degli uomini affascinanti, uomini difficili da trovare oggi, magari anche con caratteri difficili, ma di grande personalità. Sì. Boazzelli, Volonté. Mille ce n'erano. Prima eri in difficoltà, cosa andavi a vedere a teatro, no, domenica, per sceglierlo, quando io non mi ricordo, era difficile. C'erano tutti, da Albertazzi a Gassman, ma anche Elio Pandolfi e Valeria Valerio, Enrico Maria Salerno. Che bravo Enrico Maria Salerno, capito? Se vidi un Harvey fatto da Enrico Maria Salerno al Teatro delle Arti in via Sicilia, che è ancora lì chiuso, un teatro meraviglioso di Roma, lì, fantastico. E come Corrado Pani, che riusciva a fare l'ultima cosa che ha fatto era l'ir seduto, faceva il full che normalmente salta da una parte all'altra, e lui riusciva a rimanere seduto perché aveva una gamba. Quella ormai fu un'invenzione, però, di Ronconi, certo, che lo voleva a tutti i costi e l'ha voluto anche da seduto. Sì, e prese più applausi del Rellier, insomma, che quella fu la cosa pazzesca. Beh, ma loro due insieme, sì, Ronconi e Pani, hanno fatto cose enormi, importanti. Belle, vorrei che voi giovani che magari state ascoltando vi andate un attimo a ricercare queste cose e rivedere il suono, perché anche quella è musica. musica allo stato puro, quei sceneggiati era musica. Poco fa, poche notti fa, su un canale della Rai, ho rivisto i sei personaggi in cerca d'autore della Compagnia dei Giovani. Romolo Valli, De Lullo. Romolo Valli, De Lullo, El Salvani, Ferruccio De Ceresa. Musica, anche lì è una partitura, è un arrangiamento. È un'orchestrazione perfetta, funziona. Io ho amato il teatro, da piccolo pensavo di fare sega a scuola quella mattina a vedere Enrico IV di Pirandello all'Eliseo. Sono rimasto come te, quando ho sentito quelle musiche, affascinato da quello che stavo leggendo in scena, cioè mi aveva coinvolto totalmente, c'ho 15 anni. Sai, la fortuna, appunto, come diceva Massimiliano, è averli vissuti da bambino. Cioè, io mi ricordo i movimenti in teatro che te li spiegava Romolo Valli, ti diceva: no, non ti puoi muovere così. Ma io ero piccolo, non c'è che. No, tu devi fare questi due passi, ma devi fare in questo modo. Perché sbagli le proporzioni della scena. Cioè, era tutto di una. Certo. E tu poi queste cose non te le dimentichi più, come non ti dimentichi più recitare controtono. Controtono? È una grande fortuna. Sì. Com'è recitare controtono? Adesso diventa lungo spiegarti. Certo, non lo posso capire. Pagando. Tu non lo puoi capire. È come un controcanto. I nostri telespettatori sì, ma tu purtroppo. Ecco, radioascoltatori, io pure ho messo tanto prima di GR invece di TG qui. Non è come un controcanto, però serve per attirare l'attenzione dello spettatore. Sono trucchi di grandi attori. E certo, mentre fa il monologo quello davanti, tu dietro fai. No, quelle sono quelli che fanno le facce. Sono controscene. Sono quelli controscene. Sono disgraziati. Quel controtore. Quel controtore è un'altra cosa. Controscene è brutta. Ed erano bravissimi. Senti, mi vuoi leggere questa cosa, visto che non mi vuoi più leggere niente di anormale? Mi vuoi leggere questa poesia? È una canzone di De André, ma come testo, se fosse una poesia. È un testo di De André che mi è capitato sotto mano per caso. E mi è tornato alla mente, l'avevo letto tantissimi anni fa, chiaramente. Tu perché hai avuto paura che io ti davo magari come montare un armadio a muro di Ikea? Poi se vuoi leggo anche quello dopo. Però questa è molto bella. A me piace molto perché è semplice. Molto semplice. Aspetti, mettiamo una musichetta. Non so se Mauro Meloni vuole venire a riprendere. Ecco, sta venendo. Aspetta, manda un po' la musica perché Mauro va in diretta Facebook, anzi, e le teniamo queste allora cose. Vedi che c'è il teleascoltatore. Sì, anche il teleascoltatore, sì. No, ma ci tenevo a coglierti in fallo perché mi hanno colto a me tutti i giorni, non so più con chi prendermela io. Dottor Meloni, intanto la ringrazio, come lei, ringrazio Alessia Navarro che sono i miei angeli custodi, ringrazio Alessandro dall'altra parte del vetro, puntuale tecnico del suono, ingegnere del suono, Rachele, eccola lì, capo redattrice di se stessa, e adesso in una lettura, Rodolfo Bianchi, di una canzone, poesia, un testo di De André. Mauro è in diretta in questo momento, vediamo quanti like. Nuvole vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo, sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone, o della pecora, o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini, che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore, prima di arrivare, e la terra si trema, e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore, vengono, vanno, ritornano, e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. Vabbè, si può applaudire? Sì. Grazie. Questo è l'esempio che non è solo lo strumento, no. È come lo usi. Eh sì, è come lo usi lo strumento, tutto lì. Dillo a Rocco. Vabbè. Scusate, ci tenevo a morbidi sta situazione che mi ha imbarazzato. No, perché da adesso è tutto in meno, Massimiliano. Come tu dici, la voce di Rodolfo, io sembro Paperino, eccetera. E così adesso che facciamo? Questo ha fatto tre salti mortali, avvitamento, doppio carpiato da 25 metri. Mo, noi non è solo la voce, ci buttiamo da Acapulco. L'intelligenza, no, anche perché questa cosa di nuvole, la cultura era bella già sul fatto da quella donna. C'è una donna che legge su nuvole di De André, cioè comincia, vanno, vengono, la voce di una donna anche grande, anziana. Ed è un bellissimo pezzo, fatto non da un'azione, non è un'attrice, è una molto naturale, ora non voglio sbagliare, ma così è meraviglioso, no? E già era bello lì, eh? Sì, io devo dire che questo testo mi piace moltissimo. Ma guarda, se te devo metterci nel microfono, magari realtà, non è possibile. In realtà io dobbiamo andare in pubblicità. Zitto. Pubblicità. Andiamo, niente. Cancellate quello che ha detto fino adesso. Ciao, a tra poco. Sanatomi. Bentornati signori miei, si stava disquisendo su un'idea molto bella di Rodolfo. Cosa proponevi a Massimiliano adesso? Parlavamo di leggere i testi su delle su musiche ideate da Massimiliano, vari testi che piacciono a tutti o che ci piacciono in maniera particolare a noi, e proporle al pubblico. Secondo me un audiolibro così è bellissimo. C'erano, insomma, i dischi degli attori che leggevano. Come no, una volta c'erano i 45 sì, giri. Sì, sì. Sia di Gasmer, di Paolo Stoppa, di Corrado Pani, di André, ci sono. Di Rodolfo è strepitosa, che appena fatta. Sì, no, è bella. È un'idea così. Solamente è una questione di diritti, credo, no, Massimiliano? A quel punto, che non è il mio mondo, nel senso che. Ma se fai un disco, no, perché dopo la riserva di repertorio che dura 3 mesi, chiunque può rifare una cover praticamente, certo, di una versione. Riconoscendo i diritti d'autore, certo, riconosci, eccetera. I diritti d'autore e lo puoi fare. In questo caso sono i diritti di riconoscere per la scrittura, per le paroliere, per il testo. Però non credo ci siano dei vincoli. Questa qui potrebbe essere, no, non credere, non cercare nel vento. No. Oddio, un solo momento, se telefonando io potessi rivederti, dirti addio, non funziona così. No, su certi interpreti non si può fare. No, su quello non si può fare. Senti, amico mio, sentiamoci un'altra cosa. Io mi voglio sentire quella cosa, perché tu vai, la migliore offerta l'abbiamo sentita, no, vero? Non l'abbiamo ancora sentita. Il tuo Jeffrey Rush, devo dire, un film bellissimo. Bellissimo. Di tornatore, assolutamente. Io poi quando sono andato a Praga cercavamo, ma non solo io, cercavamo questo bar, questo ristorante con gli orologi. Invece è stato tutto ricostruito, non esiste. Perché di fronte c'è questo orologio gigantesco bellissimo in questa piazza, dove dà idea che poi di fronte ci sia quel ristorante fatto così. E invece è ricostruito, beh, un genio. Devo dire, il tornatore quando fa piccoli film, fra virgolette piccoli, riesce a dare il massimo di sé. E poi interpretazione così, facile, no? Ce l'ascoltiamo questo Jeffrey Rush in La volentieri, migliore offerta? Volentieri. E allora, la voce di Rodolfo su Jeffrey Rush, La migliore offerta. Ecco. Non avrei mai sospettato che ti saresti cacciato in un pasticcio come questo. E non so neanche come aiutarti. Quello che potevi fare era ascoltarmi. Ma considerando la malattia della ragazza, mi sembra così irrealistico che se ne sia andata. Penso più, che ne so, a un rapimento, qualcosa del genere. Lo trovo improbabile, non credo avesse nemici. Semmai qualcuno che se ne sia invaghito a tal punto da portarsela via con la forza. Ma chi? Recentemente ho avuto dei dubbi su Robert. Il ragazzo? Da come me l'hai raccontato non mi sembra il tipo. Dal punto di vista letterario sarebbe perfetto. Il giovane cavaliere che sottrae la bella principessa al vecchio incapace di amare. Letteratura, appunto. Non andare in tilt, Virgil. Avrà avuto buoni motivi per abbandonare la sua prigione. Non riesco proprio a immaginare quali. Negli ultimi tempi vi ha vissuto emozioni e sentimenti incompatibili con la fuga. Nei tuoi panni non ne sarei così certo. I sentimenti umani sono come le opere d'arte. Possono essere il risultato di una, come dire, simulazione. Beh, intanto un caro ricordo di Vittorio di prima, che era doppiava Donald Sutherland in questa scena 2, se ricordo bene il film. Poi un grande ricordo di averlo fatto, di venuto bene, insomma. Ah, ma sai, la gioia di lavorare con Tornatore, insomma, bene. Una domanda, una curiosità. Fai ma tutto. Quando voi dovete doppiare un film, partite dal primo anello, cioè in senso cronologico del film come è stato montato o no? Ma questo dipende da come è composto. nel caso di questi film così importanti, di autori così importanti, se fai la colonna separata, quindi normalmente lavori da solo e fai il tuo personaggio, sì, allora fai dal primo fino all'ultimo e cerchi di seguire tutto un arco. Molte volte per lavorazioni, per costi, per tante cose vengono effettuati dei piani di lavorazione, allora a volte non succede, però diciamo che per i film molto importanti, senso. Si chiama Giuseppe da Bologna e 20 anni fa ha fatto il corso di doppiaggio a Bologna con Rodolfo. Mi fece provare i vestiti nuovi dell'imperatore. A pensarci ancora oggi mi commuovo. Che emozioni. Un saluto a Rodolfo e al caro Massimiliano. E, però non ha fatto il corso con te lui, però sono sempre molto educati qui. Io ringrazio molto i vestiti, noi ce l'abbiamo un momento. Janolma, tu doppiavi nei vestiti dell'imperatore, ce lo sentiamo Rodolfo Bianchi sui vestiti nuovi, la doppia veste dell'imperatore, del vero Napoleone e del finto Napoleone, del sosia. Hai fatto sempre tu le voci, cambiandola, sì, certo, cambiando un pochino, vediamo, sentiamo il modo di dire, e dai. All'ambasciatore inglese ho detto che se il suo re idiota voleva essere il primo a sguainare la spada, io sarei stato l'ultimo a rimpoderarla. È stato magnifico. Spade e baionette danzavano nel sole sopra le loro teste. La vecchia guardia, la guardia imperiale, 20.000 uomini facevano quadrato intorno a me. Ho pizzicato la corda della loro fedeltà. Giurate di morire per difendere il vostro imperatore. E come il fragor del tuono giunse la risposta. Lo giuriamo! Spero che abbiate scritto tutto, capitano Nichols. Beh, anche questo tipo Smigol è una doppia personalità. Sì, era divertente. Questo è un carissimo ricordo perché è un film di Uberto Pasolini. Uberto Pasolini che poi è stato il produttore di Full Monty. Esatto, esatto. E anche direttore regista di Still Life, un piccolo film bellissimo. E consiglio. E facemmo questo film. Senti, ti capita mai per la strada? A me, che mi scambiano per te ogni tanto e mi fa piacere, insomma, e mi chiedono delle battute tue. Matti, ti chiedono mai quando ascoltano la tua voce, dice: senti, mi rifai questo, quest'altro, questa frase, o c'è qualcosa a cui sei legato particolarmente? Non è come Luca Ward, che Luca Ward ha beccato dei film dove, cioè, infatti quando è venuto ospite e dai, non può piovere per sempre, è il mio segnale di scatenare l'inferno, pillola blu, pillola rossa, e santa miseria. No, ci sono, capita a volte, tu c'è dei monologhi dei film, tu puoi fermare per strada a ripetere. È difficile. No, però a volte sì, ti chiedono delle cose, oppure poi dipende. Sai che lo spesso ti chiedono di fare di salutare qualcuno al loro telefono con la voce tua, mi mandi un saluto, mi mandi questa cosa, mi dici parli con mia moglie e mi metti una buona parola per stasera, queste cose qui, insomma. Ma è molto divertente, ma poi, è anche giusto perché sia è così. Io per esempio un ricordo del cattivo tenente, ce l'ho da un giorno, una persona aveva scoperto, stavamo girando francamente Sospetti, che era questo sceneggiato della televisione, stavo a Torino e lì uno del luogo della troupe aggiunta a quella che veniva, qualcuno gli doveva aver detto che io avevo fatto, ero io il doppiatore del cattivo tenente, perché questo parlava solo di questo film. E mi venne, se volevo far trattare male da te, mi venne a ringraziare, dice, perché quel film mi ha salvato la vita. Mamma mia, un film durissimo ti ha salvato la vita. Sì, forse gli hai tirato fuori il peggio. E lui era entusiasta, e alle volte ti mettono anche un po' in imbarazzo. No, ma è bello, qui ci rendiamo conto quanto è importante il doppiaggio fatto bene, la traduzione fatta bene, come una bella canzone che magari ricanti in italiano, oppure cantano la tua canzone in un'altra lingua. Il rispetto anche della traduzione e dell'adattamento. Ti capita mai? Hai adattato mai qualcosa dall'italiano, oppure che hanno adattato qualcosa? Ho fatto dei pezzi miei, soprattutto in Sud America. Beh, interessante, perché ovviamente una cover è completamente una rivisitazione. Tu le segui in questo caso? Si seguono come gli stranieri seguono i nostri adattamenti? No, tu di solito qualcuno ti manda e dice: guarda, c'è questo tuo pezzo che l'ha fatto questo gruppo. Però sì, è sempre affascinante. Intanto, prima di tutto, ti chiedi: ma come hanno fatto a trovarlo sto pezzo? No? Ah. Cioè, un gruppo venezuelano, e dici: bah, però è affascinante. Se pensi a Michael Jackson, ha rifatto il pezzo d'Albano, mo tu dimmi, con tutto rispetto per Albano, che è un grande interprete. Ma sai che secondo me lì è stata una roba in buona fede. Tu dici? Ma secondo me sì, perché lì avrà sentito questo pezzo, poi si è dimenticato di averlo sentito e ha scritto una cosa che era su quella onda. Vabbè, quella è come se adesso io ho scritto un film nella storia di un pugile italiano dilettante che ha la possibilità di vincere il campionato del mondo dei pesi massimi in America. Beh, lì stiamo parlando di una linea melodica, sì. non proprio di una, No, vabbè, però è la trama, insomma, la linea melodica è quella. Ma secondo me ci può essere della buona fede nei plagi, ci può essere anche una buona fede. Io c'ho un plagio della sua voce ogni tanto, però è buona fede la mia. Beh, voi siete parenti come timbrica comunque. Sì, un po' parenti, io posso essere suo figlio, sì. Ma vattene, va. Ma no, ma non nel senso dell'età, però è arrivato un grande Tony Bungaro, ciao. Siete comunque come colore, come pasta della voce, siete simili. È abbastanza simili, sì. Sì. Ecco. Solo io sono più bravo. Sì, sì, no, quello lo ammetto. Quello lo devo ammettere. Lo devo ammettere. Lo devo ammettere. Quello viene la cosa. No, quella c'è. Grazie, Massimiliano. Tu sei prego, un fratello. Invitami ancora. Io sono il suo nipotino preferito. Ma tu, cavolo, sei mio fratello. Santa miseria, se ci aiutiamo fra di noi, è finita. Va bene, Rodolfo, tu se vuoi, puoi rimanere un altro po'. Sì, adesso c'è anche l'amico Bungaro, che è più collega di Massimiliano. Che... Vado sì, lato, tu sì. Fai 10 minuti e poi tu. Madonna. No. Certo. Tu mi richiami, io torno. Solo il caffè prendi, vabbè. Caffè. Vabbè. Due tiratine se danno, dai, non c'è nessun problema. Dai. E allora, fra pochissimo, tiratine e sigaretta. Addio, fatemelo dire ormai, perché altrimenti se no, siamo a domenica manda avanti. No, non è così. Scarface non l'abbiamo doppiato. Hai doppiato Al Pacino, ma non su Scarface. No. Allora, tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci signori miei, bentornati, Voice Anatomy, Radio 24, 15:32 primi e 14 secondi, Massimiliano Pani che sta al mio fianco, adesso un po' devi parlare solo bene di me, Rodolfo Bianchi l'abbiamo scansato per un attimo, ha bisogno del caffè, che dobbiamo fare, però insomma, grande sostituzione, non è un numero 13 che entra al posto di Rodolfo Bianchi, ma un grande autore, tuo collega che è Tony Bungaro, benvenuto Tony. Eccomi qua, un piacere stare con voi. Ci siamo incontrati la prima volta che avevamo i capelli neri. Eh sì, adesso no. Ce l'abbiamo argentati. È vero? Ma sì, sempre sì, giovani. Sì, sì. Ma siamo più o meno con te. Aspetta, leggo dalla tua biografia, dove sei nata a Brindisi intanto. Sì, sì, sì. Il 23 maggio del 64, mentre il mio amico Pani... Del 63. È più anziano. E vedi, siamo in generazione. Però. Esatto, io sono del 59, per cui, mamma mia. Adesso, Nonno Pino. Nonno Pino. L'altro giorno al parco con mio figlio di 2 anni mi hanno detto finalmente nonno Pino col nipotino. Lì mi sono arrabbiato tantissimo. Chiedo scusa a quel signore, non lo faccio mai. Ti sei arrabbiato tantissimo. Io ho detto delle cose che mi pento totalmente di aver detto. Pensa quando tuo figlio ti dirà sei giovanile. Sei giovanile, lascia stare. Perché se mio figlio, quello grande, ha 20 anni, mi renderà nonno e lo accetterò molto volentieri, a parte l'ho mandato già a fare delle cose per chiudere ogni possibilità di fare dei figli, no scherzo. Tu hai un figlio che è venuto ospite qui. Io ho un figlio grande e uno più piccolo, però nel salutiamo. Piccolo non è neanche Edoardo, perché Edoardo c'ha 13 anni, adesso. Saluto anche la tua bellissima moglie. La mia ne ha 12, Giulia. 12. Sì, sì, sì. Voi fate i falsi giovani, però suo figlio Axel è un grande, bravissimo musicista. Che ha 31 anni. Sì, ma lo sapevo. Sta già in prostatite forte, sì, sì, sì. Per cui è grande Axel, ci sta ascoltando, lo sa. Adesso farà qualsiasi cosa. Tony, io ti adoro da quando siete nati insieme a Conidi, a Rosario Di Bella, che ha fatto quel terzetto. Beh, 91, sì, il Sanremo del 91. Esatto. Ne è passata di acqua. Anche lì, nell'89, sarà forte che hai vinto il premio della critica. Sì, sì, sì. 3 premi della critica a Sanremo. Quando sì. Poi vinci il premio della critica, dico che è veramente bello, non toglie uno, fa vincere sì. Quell'altro. No, sono contento. Quello, diciamo che 3 premi della critica. Il più importante è quello del Sanremo del 2004 con Guardastelle, che fu un premio importante. Ci fu proprio un'apertura in tutti i sensi da quell'anno lì a oggi. Sono e ti successe... senti a questo punto più autore o più interprete? Ma io sono un autore, un interprete, un curioso della musica, perché poi lo faccio con grande passione. Cioè quando scrivo non scrivo così, per tanto per cerco di fare la cosa più bella da donare all'artista. Poi ho avuto il privilegio di scrivere un po' per tutti, e questo è anche una grande fortuna di questi tempi così difficili nella musica. Se oggi tiri fuori un pezzetto Gagliardi, io c'ho un amico qui al mio fianco che è un grande arrangiatore, bravissimo autore, che scrive anche per altri. C'è una signora che... la quale scrive ogni tanto. No, a me è successo, che funziona. Ti è mai capitato di spedire un disco al Massimiliano Bani? Beh, Massimo, sì, dei pezzi ogni tanto sì, sono arrivati. Sono arrivati. Quanti tutti ne arrivano? Tanti. Mia madre è l'unica artista in Italia che ascolta personalmente tutto. Tutto, è vero. Tutto. È indietro di due anni adesso. Diciamo che tu sei anche l'unico, roba che arriva. L'unico che forse uno dei pochi, non perché lui è qui, neanche sapevo che era qui, lui, lo dico sempre, è l'uno dei pochi, è un signore nobile, come dico io, che prende tutto, ascolta tutto. Poi sai, le canzoni dipende dai momenti, dall'artista, come cosa sta cercando. Guarda, un giorno che deciderò di scappare, tradire mia moglie e fare rompere un'altra famiglia, scappo con Massimiliano. Ma lo dico subito, anche perché questa età, visto, abbiamo i capelli sì, bianchi, esatto, fra ancora un po' che aspettiamo, dobbiamo fare delle belle passeggiate al mare, basta decidersi, esatto. Capito? Farò un outing fra una quindicina d'anni, dai, non prima, dai, 15 anni. Io però me lo voglio sentire, e noi qui per esempio posso sentirmela. Sorpresa, sorpresa. Sì, quanti anni sono passati da noi qui? 91. 91, per cui... Non gli diciamo. Zitto, lascia stare. Me la fai sentire? Grazie, Alessandro. Girano i tuoi capelli come corde di una giostra. Gira il suono di una radio in questa primavera di Ginestra. E noi qui... alla finestra. Ad aspettare di salire, comunicando le intenzioni. Questo è Marco, vero? Sì. Che è venuto ospite, c'è stato il dualismo Roma-Lazio qui. Sì, eh? Sì, sì. Perché tu sei Lazio e Roma. Eh sì, ma si vive, come dico sempre, in una società multilaziale, per cui bisogna accertarci. Fammi sentire noi qui un altro pezzetto. Che se ne va. Anche l'ultima eccomi. Eccoti. Sembra ieri che eri qua. Che bello. Che ricordo. E adesso apre. Mai la stessa. Pensa se domani fosse un giorno eccezionale. Uno di quei giorni senza. Che mi ricordi. Ah, brividi. Bella, bella, mi piace tanto. Sì, questa è... poi fu Fortunato, una canzone che... Beh, Fortunato, è andata... bella. Si vendevano ancora i dischi. Sì, ti ricordi, Massimiliano? Sì, anche se, insomma, ultimamente 300-400 mila pezzi, Mina Celentano... Diciamo che è un disco che ha incontrato diversi pubblici, ha giocato un po' categoria sé, se vuoi. Beh, perché sì, è vero quello che dice Bungaro, i dischi fisici non si vendono più. No, io, poi, però è riuscito quello, il vinile, questa è una cosa bellissima, che adesso si fa anche, si rifà il vinile. Si rifà il vinile, è 180 grammi. Una moda è diventato, anch'io farò il vinile di questo nuovo ma disco. Una moda, è bello. Però c'è anche una cosa, io sono molto sincero, c'è un equivoco che gira nella musica, no? Che dicono sì, però i dischi d'autore, i dischi troppo belli, poi la gente non li capisce. Secondo me non è vero, perché poi, per esempio, io sono uscito 10 giorni fa, sono in classifica con questo disco. Sì, mare dentro. Era molto spontanea, perché poi c'è un pubblico che ti segue, è un pubblico, lo chiamano pubblico di nicchia, però che è pubblico che poi viene ai concerti. Questo è un concerto fatto all'Auditorium Parco della Musica, cioè era un vero sold out, e abbiamo registrato questo disco e sta incontrando pubblico. Che bel packaging, bellissimo, bella grafica, è bello bellissimo. Dare al pubblico, anche se può sembrare una cosa assurda, no? Però il progetto anche del tatto, del visivo, e non solo del sonoro. Anche voi avete costruito un esercizio di stile da quel disco. È assurdo dal picture... che purtroppo si possa prendere un prodotto intellettuale di un altro senza pagarlo. Quello è, anche se ormai è diventata una cosa così consueta che sembra normale, ma non lo è. È come se tu entrassi in un negozio di scarpe, le provi, dici grazie, me le scarico. Me le scarico. Non è... Dietro c'è un lavoro di enorme, centinaia enorme di persone. Ma voglia. C'è... purtroppo, sai, la deriva del digitale ha portato tanti vantaggi e qualche svantaggio, sicuramente a chi produce degli svantaggi, prodotti, sì, intellettuali come sempre, la musica, i libri. Questa massificazione di internet, per carità, che ci mette a un secondo di distacco fra noi e la Cina, in un secondo in America, stai in un secondo, stai ovunque, però ha creato delle scorciatoie bruttissime e lo sappiamo, insomma, cosa può succedere se non gestito bene. Quel mare dentro che spegne e annega ogni tormento mi toglie il fiato, ma poi ancora respiro senza più fiamme. Sì. Non c'è Rodolfo Bianchi, ho letta io. No, è una citazione che ho fatto di un pezzo che ho scritto per la Ferreri di un Sanremo del 2000, di 4-5 anni fa. Che era il mare, il mare immenso. Mare immenso, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vorrei arrivare in cima, ecco, ai tuoi segnali, per intuire tutti i sensi unici. A volte o quasi sempre io mi perdo nella notte, decido poi di scivolarti addosso e cancellare tutto e niente mi appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge. Mi diceva adesso l'amico Tony Bungaro, vedete com'è nata la versione poi che hai ricantato, sì, tu qui in questo, sì, in questo disco abbiamo il mare immenso. E la quinta traccia, l'originale, vediamo, allora abbiamo sentito Giusy Ferreri e vediamo dalla voce viva dell'autore, che è vivo, che sta qui, perché normalmente no, l'autore normalmente si ricordano, invece c'è, ascoltiamolo. A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali, per intuire tutti i sensi unici. A volte, quasi sempre, io mi perdo nella notte, decido poi di scivolarti addosso e cancellare tutto e niente ti appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge come un cielo a fulmine, il nostro cuore fuori legge, spara colpi di dolore, è troppo tempo che non si fa più l'amore. Scorre il sangue dentro al fiume che ci portava verso il mare. Quel mare immenso. Mi unisco a questo applauso. Che bella, no? Questa è un'orchestrazione fra flauto e chitarra, non c'è voce. Sì. C'è un flauto che la voce. Ma c'è serenità, c'è gioia, c'è una versione, c'è chill out lounge dell'altra versione, sì, più graffiante, però ecco, questa è l'interpretazione. Bello, no? Sì, sì, sì. Fatta così a ballad con lui che te la stai suonando da solo la chitarra, no, qui, no? Sono io che suono la chitarra, poi sono entrati musicisti straordinari o dei musicisti. Sì, ci sono, ho letto i nomi, sì, li, sì, dici tu, sono difficili, beh, sono, dirli io, perché sono stranieri anche. Gabriela Ungureanu. Violoncellista, poi Armand Priftuli che suona viola. Ti ringrazio di averlo detto tu questo, sì, nome, stavo cercando di leggerlo. Antonio Fresa che ha curato gli arrangiamenti e la produzione con me, il pianoforte. E poi al vibrafono e percussioni Marco Pacassoni, al contrabbasso Antonio De Luisi. Tre di loro sono polistrumentisti, a un certo punto suonano a sei mani, è un concerto molto molto originale, che particolare. Bello. Sì, ci, sì, sono tanti bei pezzi qua dentro, quella cosa, sì, mi fa sorridere, ma non perché è questo l'ombelico del mondo fatto in Salentino, sì, che però devi tradurre anche questo, devi dirlo. Lo vi dico di Lumundo. Lo vi dico di lui. Devo dire che mi piace molto, è divertente, è piaciuto anche a Lorenzo Giovanotti. Vai. Ballando Queste luvite tutto il mondo. Queste luvite tutto il mondo. Queste luvite tutto il mondo. Beh, ragazzi, Sud America è lo stato puro. E qui sì, c'è qui l'amore. Se non dici che è salentino, uno pensa che è brasiliano, no? Massimiliano, sì, sì. Sbaglio. Quando ti chiedono ma che lavoro è l'arrangiatore? Ecco, è questo. Ecco, questo pezzo di Bungaro si capisce che lui ha preso, ha fatto un vestito completamente diverso. L'altro pezzo è tutto basato su una ritmica, un groove di batteria. Qui la batteria non c'è nemmeno. No, no, eppure no, il pezzo sta in piedi, è molto carino anche così. Sì, sì. C'è un una, un'idea di proprio di. Poi chiaramente il pezzo cresce certo. E fino a divertirci allo stato puro. Però mi piaceva l'idea di portare via mare, come dico, nella mia terra, questo pezzo, come altre canzoni che un omaggio che ho fatto a Modugno, che è La Donna Riccia. Intanto adesso in qualche modo ci ascoltiamo. Come tutto, no? Perché bella passeggiata, veramente. Molto. Poi è bella l'orchestrazione. È sì, vero, poi detto da un orchestratore, ti dai. No, no, se lo dico io magari molto. Non ha molto senso, però io posso essere quello che ascolta e dice bello, non so per quale motivo, ma dico bello. A tra poco con l'amico Tony Bungaro e con Massimiliano Panica. Sanatomi. Eccoci, come promesso, signori, Tony Bungaro alla mia sinistra, alla mia destra, a Massimiliano Pani che ci accompagnerà fino alle 17. Che bella avventura questa musicale di Bungaro. Sei cresciuto tantissimo, nel senso, non che prima non valesse la pena, infatti i brividi mi sono venuti sentendo un pezzo di 23 anni fa. Ma riascoltando queste, avere anche l'appoggio professionale di Massimiliano mi conferma che quello che sto vivendo emozionalmente, spero che lo stiamo vivendo anche i nostri radioascoltatori, è importante. È importante perché, sai, quando uno rifà un pezzo molto famoso di un altro, o me lo canti in maniera diversa, se no mi sento quello originale. Hai ragione. Cioè, My Way me lo sento di Frank Sinatra, a meno che tu non mi regali una versione che veramente mi emoziona in qualche modo. Cioè, i Gypsy King che cantano Volare mi diverte molto, me l'ascolto volentieri. Giusto, giusto. O a mia maniera, ecco. E questo è un bellico del mondo che non lo dirò in salentino, l'uvidicu di Lumundo, che non è pugliese, cioè è salentino, sì, cioè, sì, poi sì. Lì a 100 metri ognuno dall'altro parlate in maniera diversa, ma l'Italia è così, è vero. Sono lingue, noi parliamo. Però qui di voce noi abbiamo, io mi sono divertito perché noi abbiamo proprio anche delle parole molto Japan, per esempio noi se dobbiamo dire ti do questa cosa, ti tau sta cosa. No, oppure che cosa stai dicendo? C'è sta dici, è un suono molto, molto carino. Ma è questo. Io quello dico sempre, e lo sto urlando, fra un po' avremo anche il ministro della pubblica istruzione, che il dialetto va salvaguardato sicuramente, sì. Ma a scuola mi piacerebbe molto che insegnassero l'italiano, perché tu domani ti devi interfacciare in questa lingua, non soltanto la grammatica, è anche vero. Il coaching, l'impostazione della voce, perché non deve averla un ragazzo che cresce e farà di questa cosa il suo strumento di vita. Giusto. Che tu sia un medico, che sia un cantante, che tu sia un comunicatore, che sarai un politico o un professore, è importante l'emissione della voce e saperla gestire, perché sennò ci troviamo sempre questi insegnanti, allora pagina 12 e c'è nel nodulo dell'insegnante perché urlano dalla mattina alla sera e non sanno come farlo. Sarebbe bellissimo che i nostri figli, o almeno i figli dei nostri figli, possano, ecco, camminare all'interno del mondo della voce, che è importante. Non puoi saperla gestire, tu la devi gestire. Se, è il tuo lavoro. Ma poi dalla voce senti la provenienza dei tuoi pensieri, del tuo sentire. Mi parlavi prima di Domenico Modugno, La Donna Riccia, sì, hai fatto sì. Questo regalo. Sì, sì. Io poi l'ho conosciuto tanti anni fa, ho avuto l'onore di conoscerlo, di stare una sera in un teatro tenda a Napoli a parlare nella nostra terra, perché è io vero. Abitavo due passi da casa sua. Per me è stato uno dei più. Vi siete parlati in dialetto? Sì, sì, sì, che lui, iniziò lui a dirmi ma di Brindisi, ma di Dosinti, di quali parte? E da lì abbiamo iniziato. E io La Donna Riccia la canto da sempre, da tanti anni, e questa Donna Riccia va in Francia, poi in Grecia, poi in Giappone, un arrangiamento molto particolare. Voglio sentirlo proprio, sono molto curioso che conosco perfettamente la versione di Modugno. Eccola. Ci vuoi però non ti pigliari una Donna Riccia. Con ricci ricci tieti e dati incanta. Prima vola ti picchia e poi vola ti lassa. Non ci capisci niente, è come una tassa. Ti imbroglia e poi ti sbroglia. C'è compacisci. E no. donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no, no, no, no, no, no. E pigliatela tu, pigliatela tu, pigliatela tu, pigliati ci ti pari, ci vuoi ti spoesi. Però non ti picchiare una donna riccia, con ricce ricce dietti, e dati incanta, e dati incanta, e dati incanta. Prima volati picchi e poi volati lassa. Non ci capisci niente, è come una tassa. Ti imbrocchi e poi ti sbrocchia, ci compacisci, ci compacisci, ci compacisci. Continuo a sentire il Sud America io. Bella questa versione, no, è bella, è intelligente l'orchestrazione, c'è niente da dire. Poi mi dicevi che è proprio uno spettacolo teatrale impostato. Sì, è uno su spettacolo che Mare Dentro e... parte, sono gli stessi musicisti, dove dall'inizio alla fine c'è una regia, ma la scommessa più bella è che di solito quando hai delle immagini dietro devi avere un sync, e noi abbiamo provato così tanto che abbiamo un sync umano, cioè c'è chiaramente l'immagine... il percussionista che dà il 4, 1, 2, e da quel momento partono le immagini e come d'incanto tutto si incastra. È stato molto difficile, sono stati mesi di prova, però non perdiamo il volo, come si dice, la passione di poter giocare senza avere l'elettronica dentro. Mi piace quello, la dedica finale. Dedico questo disco a tutti quelli che continuano a volare con i piedi per terra. Io sono come voi, mi piace molto. Ma io sono stato molto sincero. In questo disco c'è un po' tutta la mia vita, gran parte della mia vita. Ho scelto delle canzoni importanti, fino ad arrivare a Perfetti Sconosciuti, che è stato un film. E poi ne parliamo dopo la pausa, sì, del GR, sì, ne parliamo. Sì. E c'è una parte rock anche in questo disco, chiaramente con lo stesso trattamento sonoro, che il mio amore per David Byrne e The Talking Heads. Ma c'è una versione proprio ufficiale firmata insieme a David Byrne, che lui ha accettato. Qui. Sì, si chiama Apri le braccia. Ah, Once in a Lifetime. Once, sì, in, sì, a Lifetime. Na, na, no, sono curiosissimo. Fammela ascoltare. Come siamo barriere, come siamo confini, come siamo paesi, come siamo città. Siamo come le idee che non muoiono mai. Siamo giovani e forti o soltanto confusi, confusi, confusi. Siamo fili d'erba come mossi dal vento. Un cielo poco sereno, un cielo che osserva. Uomini sotto, la terra che gira e la vita si ferma. Siamo sabati sera e schedine stracciate, fari nella notte con le bocche affamate. Questo è un esempio, e quale, se non me lo dicevi, sì, adesso la riconosco, soprattutto adesso è Once in a Lifetime. Na, na, na, na, na, na. Vabbè, ti sei fatto un bel regalo. Bene, onorato. Ce l'hai fatto, ma ti sei fatto proprio un bel regalo. Grazie. Allora, restate con noi, adesso c'è il GR, abbiamo una pausa leggermente più lunga, 5-6 minuti, e poi torniamo insieme a Tony Bungaro, insieme a Massimiliano Pani, Rodolfo Bianchi se vorrà tornare, e poi salutiamo e rimango l'ultima mezz'ora con Massimiliano. Ho detto tutto, il menù è questo. A tra poco. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati. e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, 16:04, 39 secondi, Bungaro alla mia sinistra, Massimiliano Pani alla mia destra e al centro Rodolfo Bianchi che ci sta abbandonando, nel senso buono del termine. Sì. Ci stai salutando? Sì, saluto tutti. Dico una cosa. Sì. Forza Roma. E dai, non è una trasmissione regionale, ma ti prego. Ma andiamo in tutto il mondo. Ma perché? Ma perché? E perché lo sanno, adesso è il tuo debole, debole. Mi chiami no. Ciao. Grazie. Rodolfo. Ciao. Hai capito? Quando mi chiamerai il prossimo film non verrò a farti il protagonista, mi dispiace. Va bene. Ma come va bene? No, sto scherzando. Massimo, invece? Massimo, no, Massimiliano. Max, qual è? Max. Ma anche Paolo. Sì, va bene. Tu sei cretino con la I. Anche Paolo va bene. Il tuo startup, invece, Massimiliano? Io ho iniziato facendo l'autore prima. E poi, siccome comunque era sempre la parte musicale che mi affascinava, ho cominciato a studiare privatamente musica, perché con un padre attore, una madre cantante, dire ragazzi voglio fare l'arrangiatore, si buttavano giù dal settimo piano. No, secondo me ancora domani te buttava. E allora mi hanno detto va bene, studia quello che vuoi, ma intanto fai gli studi normali, quindi certo, liceo eccetera. E ho cominciato a studiare privatamente con un maestro che c'era a Lugano, perché a Lugano non c'era conservatorio che adesso c'è, sarei dovuto andare o a Milano o a Losanna, che però ha 10 anni, capisci? Non puoi muoverti così. E ho iniziato lì, poi ho seguito per un po' Celso Valli, che ancora oggi secondo me è il miglior arrangiatore italiano sulle produzioni discografiche che ci sia, e poi pian pianino ho avuto l'onore di poter guardare lavorare Gianni Ferrio, che come orchestratore e compositore è stato insuperato in assoluto, senza poter dire di aver imparato, perché Gianni Ferrio è Gianni Ferrio. Cioè non si può guardare, ascoltare e apprezzare, ma non riprodurre. Questi grandi come Gianni Ferrio, Renato Serio, che continua ad essere un grandissimo arrangiatore anche lui, per esempio l'ultima cosa di Renato Zero è affrontata da lui. Questi grandi, che insomma, sai, orchestratori ce n'è sempre meno, diciamo. E poi il fatto che i ragazzi nuovi hanno meno possibilità proprio di lavorare con l'orchestra, no? Cioè loro lavoravano tutti i giorni con l'orchestra e quindi avevano la possibilità di fare degli esperimenti anche. Ma è tutto lì poi il segreto di un brano, no Tony? A quel punto il motore immobile di un brano è l'orchestrazione. Mettiamo le trombe? No, mettiamo i violini? No, facciamo entrare qui. Insomma, sembra, è come il montaggio per un film. Sì, puoi salvare un film. È importante anche all'interno di una canzone la timbrica dell'artista, no? E spesso e volentieri ci sono dei grandi arrangiamenti e la voce viene coperta, o non c'è l'alchimia, l'intelligenza di far viaggiare il potere della parola, della musica all'interno di un arrangiamento. Questo è fondamentale. Io sono stato sempre molto meticoloso, molto attento all'emozione che deve arrivare tra gli archi o gli strumenti scelti, no? Perché se no non arriva soltanto un suono e non arriva il progetto della canzone. Qual è stata la prima cosa che hai fatto per Mina? Che a 16 anni un pezzo si chiamava Sensazioni, come autore. Lì ti ha messo alla prova o già sapeva che... No, quei pezzi lì le sono stati fatti ascoltare assieme a degli altri pezzi, proprio per evitare in assoluto qualunque tipo di, certo, di influenza emotiva, no? E lo scelse, andò nel disco Attila e da lì poi iniziai a lavorare con Piero Cassano in quel periodo lì anche, con cui lavoro ancora adesso e saluto. Che belle persone, mi è dispiaciuto della perdita di uno dei grandi, di Mattia Bazzar. Vabbè, succede anche quello. E poi, ma grandi successi, ecco, la settimana abbiamo avuto gli Audio 2 e ti ho avuto anche per telefono. Lì è stato un grandissimo successo. Tra tutte le migliaia di cassette prima e CD oggi che arrivano di pezzi inediti per Mina, trovai questa cassettina di questi due ragazzi e dentro c'era il pezzo Neve. Ce l'ascoltiamo, ce l'abbiamo Neve, vero? Ce l'è di Mina, certo, di Mina. Alessandro mi parla all'interno delle mie cuffie, lo ascolto solo io. Eccolo, eccolo. Ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo. A pensarci è così, chissà dov'è l'ultima parola che riguardava te. Ma sei. Fatto qui, Max? Questo qua l'avevo arrangiato per Mina, mentre certo. Loro hanno più un mondo molto FM, quindi basso, batteria, chitarra, e però il pezzo era interessante proprio come scrittura. Allora gli dissi: mandatemi gli altri pezzi, mandarono una cassetta dove dentro quella cassetta c'erano tutti i pezzi del primo disco loro, quindi Specchi Riflessi, Sì che non sei tu, a quest'anno è il disco 2. È venuto dopo. È quello dopo. Però tu hai prodotto anche loro, ovviamente. Prodotto e dopo Neve, dopo Neve ho deciso di produrre il loro disco e abbiamo fatto due dischi insieme che sono quelli di grande successo. Abbiamo vinto anche il Festival Bar con alle 20. E secondo me loro sono dei buoni autori, molto più interessanti di quanto non abbia capito la critica, che spesso gli ha fatto un po' scontare il fatto di avere la voce. No, Totò è stato scoperto che... dopo, no? Tutti i grandi sono stati però, abbracciati dopo. Di fatto nel disco Mina Celentano, nel primo, il pezzo Acquefale ha fatto vendere il disco, ed è un pezzo loro. Tu riesci, lo mettiamo Acquefale di sottofondo, grazie Alessandro. Semplici un po' banali, ecco. Io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Il segreto è anche la semplicità, che è una cosa più difficile da raggiungere. Sai, cioè basta mettere uno strumento in più o in meno, è colui che perde tutto quanto. Vabbè, se che... il pezzo è bello, abbiamo sentito il pezzo di Bungaro prima che era semplicissimo, bellissimo. Quasi nudo, poi entrano gli strumenti. Se il pezzo è bello lo puoi arrangiare come vuoi. Riesci a riconoscere, sì, certo. La cosa difficile è riconoscere, come quando ti mandano una sceneggiatura, sapergli dare un corpo a quella sceneggiatura. È come un pezzo musicale, riesci a capire come traslarlo e se va bene quello per il cantante. Quello è il lavoro di riferimento, produttore, cioè capire dentro, sì, il brutto anatrocolo che c'è il cigno. Sei sempre tu. Sì, è vero. Quello lì è un lavoro che si impara, perché spesso i provini dell'autore non sono meravigliosi, quasi sempre. Sono alcuni che sono bravissimi, sì, e fanno dei provini, sì, meravigliosi, sì, sì, e alcuni che no. Però il pezzo c'è. Il pezzo c'è, e lì bisogna essere bravi. E parlavi di sceneggiatura, sì, e ti dico che non è facile. Poi io vedevo anche adesso qui davanti l'avvio di Massimiliano, che anche lui ha avuto a che fare con le colonne sonore. Cioè, quando ti raccontano un film senza leggere la sceneggiatura e poi ti devi veramente, cioè quasi devi essere portato a capire l'emozione di quel film, come verrà montato, te lo immagini prima di vederlo. E soprattutto la canzone è ancora più difficile. E scrivere una canzone per un film non è facile, no. Poi se la canzone deve rimanere nel tempo. A me è capitato tempo fa di scrivere anche per altri film non con grande successo, fino ad arrivare poi invece a Perfetti Sconosciuti. E adesso ce l'ascoltiamo, infatti. Dove invece, forse perché non c'era l'esperienza, perché ci vuole esperienza per arrivare a scrivere un pezzo importante per un film. Assolutamente me. Sì. Allora a questo punto, anche tu colonne sonore abbastanza, no? Anche adesso stai facendo una fiction. Ho appena finito una fiction con Franco Serafini, che è un amico con cui scriviamo Quattro Mani, per Mediaset, che andrà in autunno. Come si intitola? Il costume, Sacrificio d'amore, che Sacrificio d'amore, ambientata... stasera, Canale 5. Io provo questa te la pigliano e te la mettono. Esatto, io faccio con mio amico Stefano Mainetti, sì, grande, bellissimo musicista e compositore di colonne sonore. Noi per vedere se va bene il tema, io gli faccio la voce sopra. Se funziona la voce su quella musica. ci sta, ci sta. Capito. Capito? Bisogna fare il titolo, no? Modifichi. A questo punto l'hai detto tu, abbiamo provato a cercare l'amico Paolo Genovese, ma è staccato, ma sicuramente starà riposando. Sarà al mare. Sarà al mare. Io me l'ascolterei questa Perfetti Sconosciuti, che fa parte sempre di questo bellissimo disco di Bungaro, Mare Dentro Live, e questo è Perfetti Sconosciuti. Dove sei stata in questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stato sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Elegante, come siete molto simili nel senso come persone. E Massimiliano, tu sei veramente una persona, sembra quello che si utilizza a dire, d'altri tempi, no? Si dice, ma non è così, è la quotidianità che invece ci ha insegnato qualcosa di diverso. Che adesso ti dice, ti presento una persona, è una brava persona. No, tu mi devi avvertire quando non è una brava persona. È normale che sia una brava persona, perché per esempio anche lui è stato ed è anche un conduttore. Ed è affabile, educato. Guarda, io. Che è grave, però. Lo stai dicendo perché è grave. No, è bello. Mi ci specchio molto. È raro. Io. Anche se noi non ci siamo mai incontrati, e poi sono uno che non dice le cose tanto per dire. Io ho molta stima di. Perché ho sentito sempre parlare di lui anche attraverso il mio socio, che è Cesare Chiodo, che ti conosce. Bravissimo, bassista. Lui, noi lavoriamo insieme, abbiamo scritto insieme Perfetti Sconosciuti con Fiorella. Mi ha sempre parlato di lui come una persona rara in questo. Hai capito? Perché ci ha lavorato, ha fatto dei dischi di Celentano, di Mina, e poi io succederà qualcosa. Ci si accorge. No, ma basta che mi fate fare una parola dentro una canzone. Adesso dobbiamo andare in pubblicità. Un attimo, dopo un quarto d'ora dobbiamo cedere la linea alla pubblicità, ma torniamo immediatamente con Tony Bungaro e Massimiliano Pagna, tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, 16-18 primi, vabbè, quasi 16-19, Tony Bungaro e Massimiliano Pagna, per una bella disquisizione umana di questo lavoro che è tanto difficile, tanto particolare, ma tanto bello comunque. Resta meraviglioso il mistero del cantante, dell'arrangiatore, del musicista, dell'artista. L'artista è libero. L'artista è libero. Ci piacerebbe che ci fossero più featuring, come si dice in America, più collaborazioni che possono nascere anche in questo tavolo. Infatti io sto per promettere il mio nuovo CD con gli arrangiamenti di Massimiliano, che ha litigato con Bungaro, perché dice no, faccio i pezzi, no, faccio l'arrangiamento. Hanno già litigato, ci hanno fatto i complimenti, mo stanno a litigare per chi produrrà il mio nuovo disco. Voi sapete che il mio core business è quello, devo cantare, cioè, la gente lo sa. Io sono Hai mai fatto un disco? Ma guarda, rifammela sta domanda. Hai mai fatto Ci sarà un motivo? A tutto c'è un motivo. Io ho cantato un paio di canzoni di Disney. Però sei intonato. Sì, se io prendo quella nota giusta la porto avanti fino alla fine. Ma se la prendo sbagliata la porto avanti fino alla fine nello stesso modo. E questo è il dramma. Samba di una nota di Jobim è il tuo pezzo. Bellissimo. E vai. Vado dritto. No, quello assolutamente no. Però insomma, sì, sono intonato, ma faccio altro. Ma io posso recitarlo un pezzo dentro al disco se c'è da recitare. Però ecco, sei... Parole di Mina, quando vorrà rifarlo veramente, me deve chiamare. Io ti ho visto in televisione. Sì, a Tale Quale Show. Bravo. Bravissimo, sempre 5, però volevo arrivare ultimo sempre. Anche quando ero però, giusto. Però ti sei divertito. Tanto, da morire. Ero l'unico che dopo 12 ore di trucco assomigliava a se stesso. Non era. Cioè, c'era Aldo Fabrizi che imitava Pino Insegno, Louis Armstrong che sembrava Maurizio Costanzo Nero. Cioè, sempre io. Cioè... No, ti ho visto, ti no, sei ma divertito. Mi devi credere, 8 ore di trucco. Infatti, la parte più divertente era dopo la canzone. Perché. Non era possibile. Non mi hanno chiamato i cantanti viventi. Ho detto, ma io non sono così. Ho fatto, non è colpa tua, Johnny Dorelli mio. È che io non ci riesco a assomigliare a nessuno. Che devo fare? Se nascevo De Niro, mi morivo di fame io. Non, sono io, con le parrucche. Ma il trucco era veramente bello, importante. Sì, anche sì. I maestri musicali, bravissimi. Ma non c'è niente. Ero quello. Però qui siamo qui per parlare di voi, di questo bellissimo album, caro Bungaro. Veramente è una bellissima sorpresa. No, sorpresa nel senso, so quanto sei bravo e ti ho seguito e sai da quanto tempo ci frequentiamo. Ma questo è proprio un bel regalo che ci hai fatto e ti sei fatto. Ogni pezzo c'ha il suo perché. Grazie. No, grazie. No, un bel percorso nella tua carriera. È il momento giusto per farlo con, quando arrivi, poi è difficile arrivare con la serenità nel cuore, con la gioia, con una figlia che è la luce dei tuoi occhi. E non quanti è, anni ha non, tua figlia? 12 anni, 12 non, anni è, non è retorica. Pensa che io 3 anni fa, lei aveva 9 anni, mi disse una cosa incredibile, mi disse papà sai secondo me il poeta è un tuffo nel mare fatto a rallentatore. No vabbè. E faccio. Sì, i bambini sono è incredibile. No, ma mia figlia non mi ha detto, detto papà, ma perché è entrato in campo al secondo tempo? ma le femmine sono diverse. Wallace, capito? Non è uguale. Vabbè, non ma sono tutti lei così. Che è cresciuta così, poi è una bimba molto particolare. E ho visto che c'era sempre il mare nella mia vita, c'è stato sempre il mare. Poi Mare Dentro, tra l'altro, che la società mia di Cesare Chiodo. Grandissimo viene da, anche film Mare Dentro. È proprio da lì. Parte, da lì, dal grande film Mare Dentro, e poi chi è che non c'ha un mare dentro? Chi è che non ci ha mai navigato dentro con la tempesta, con la serenità, con dentro di noi sempre? Spero di averlo navigato bene in questo no, disco. Bellissimo. Vedi, oggi serviva la psicoterapeuta che ogni tanto viene qui. Vedi? Vedi? Io mettevo un bel lettino oggi, navigate dentro il mare del Bungaro, vediamo che sta succedendo. Sei in tempesta adesso? Come sta? Il tuo no, mare? Adesso è serenissimo. Il tuo mare, Max? Ma buono, bonaccia, cioè, bonaccia. Si può navigare bonaccia, tranquillamente. Bonaccia. Siamo che bella, la bonaccia. Non siamo in alto mare, no. Siamo in alto mare, ma c'è la bonaccia. Ma non siamo in alto mare nel senso metaforico del termine. E invece mi voglio sentire l'ultima tua fatica, che è questo album nuovo, che è stata una fatica vera di Mina e Celentano. Gestire due grandi così non. Beh, guarda, non è stata so una soddisfazione rifarlo dopo 18 anni. Sì, 18 anni sono passati sì, da Mina e Celentano, sì, sì, il primo. E i due ragazzi hanno dimostrato ancora che. Non ce n'è per nessuno. Beh, insomma, dai. Ma niente, come chiama Ronaldo e Messi fra 10 anni? Beh, le loro due voci insieme hanno una magia, hanno... questo sicuramente. È vero. Allora, e sentiamoci poi... il brano di punta che è Amami. Sì, il primo singolo era questo. Eccolo. E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii, contro la nostra volontà, adesso è subito, amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia, chi ti abbraccia e chi non capisce come sei. Pericolosa amica mia. La voce sono rimasti identici su ragazzini. vedi che tu sei su quel registro lì di Celentano. Dillo, è un passo, ma siamo a un passo. Ma che ti ho chiesto dopo 30 anni che ci conosciamo? Che ti ho chiesto? Si fa un duetto con Mina? Non è che ti ho chiesto Bungaro? È una cosetta. E dai. Ma sì. Ma si può fare? Come no? E dai, ma non è possibile. Amicizie inutili, veramente. Facciamo la prova. Dai, mandagli un pezzo, la voce mia, dal tuo arrangiamento. Lo sai, chiuderà le porte in faccia, cancella dalla B Bungaro e la insegno. Poi c'è voi sanatomi perché ci squartano, ci tutti, ci aprono e poi ci controllano dentro. Perché per te il lavoro d'arrangiatore, Massimiliano, finisce qui. Ti diranno questo e tutto finisce. No, assolutamente, non si può fare. Senti un po', ma è vero che hai spiato le gemelle Kessler in camerino, Pani? Ma da piccolo? No, da piccolo. Cioè, hai spiato le gemelle Kessler in camerino? Da piccolo non mi trovavano in giro, certo, nei studio 1, eccetera, certo. Ed ero spesso sotto il tavolo di trucco delle gemelle. Ma guarda, però ero molto piccolo, avrò avuto 4 anni. Certo, non stavo, per caso. Certo, però per il caso. DNA di mio papà, esatto. Devo fare, non è colpa mia, mi disegnano così. Tu, esatto, padre non c'aveva il DNA, c'aveva la B, C, D, L, M, N, O, P, Q, tutte, esatto, le lettere dell'alfabeto. Corrado era meraviglioso, un tombeur de femme, per dirla alla francese. Però allora è vero, tu stavi lì, insomma. Sì. Senti un po', invece, come conduttore, come ti vedi? Guarda, io... Soprattutto queste due ultime avventure televisive, molto interessanti. Uno per i mercatini. Abbiamo fatto una cosa scritta da me con Andrea Rovetta, che era il regista di questa trasmissione, dove andavamo nel mondo del vintage, del collezionismo, assieme a un vero falsario, che questo, sì, Cerbero. Ed è una cosa carina che ha avuto un suo pubblico, perché esiste già un pubblico. No, cioè, la domenica molti italiani vanno. Costava poco, ma faceva tanto, che è il segreto, no? Di sì, tutto. È una cosa, devo fastidiosa, dire, che ha incontrato un pubblico che già c'era, no? Che, certo, sono i collezionisti. C'era dentro un po' di macchine, un po' di quadri, un po' di mobili, un po' di monete, un po' di tutto. Non sì, era, ma era divertente settoriale. Come le consigli. Adesso con Vincenzo Mollica. Adesso invece con Vincenzo Mollica, che è il giornalista dello spettacolo italiano, stiamo facendo una trasmissione, si chiama Pani e Mollica. Bello, con due nomi così, sì, prima o poi bisognava fare una cosa insieme, farla. Dove invece sono degli incontri con dei personaggi del cinema, della musica, dello spettacolo, dove chiediamo a loro chi erano i loro supereroi da ragazzi. Quindi è un artista che parla chi di un tuo altro supereroe artista. Da ragazzi? Qual era il tuo supereroe? Io da ragazzo ascoltavo Gino Vannelli, ero avvelenato di Gino Vannelli. Anch'io, giuro. Sì. Brother to Brother. No, quel disco lì era bello, che bello quel disco. No, io no. Beh, Gino Vannelli era forte. Ma io perché... Bruce Lee. Ma è Diabolik, io devo dire. No, più Bruce Lee di Gino Vannelli quel periodo. Beh, però... I Genesis. No, io Peter Gabriel. Beh, sì. Beh, anch'io Peter Gabriel. Certo, scherzo, immagino. Peter Gabriel. Ma lo fa il figo rispetto a voi, che avete detto una cosa più leggera. Lasciatemela passare. Giusto. Però dai, non è leggera. Gino Vannelli sul palco spaccava. Questo potrebbe essere un disco prodotto a Peter Gabriel per la Ria, sì, World, sai? Sì, sì, sì. Lo dicono, me l'hanno già detto. Vedi? Sì, sì. Per cui sono intelligente. Bravo. Sono stato un bravo conduttore. 10-0. Bravo. Oh, benissimo. Hai colpito. Da me non te l'aspettavi. No. Va bene. Però sei venuto ospite. Va bene. Rimanete con noi. Fra pochissimo torniamo con Tony Bungaro e Massimiliano Pani, sperando di fare altri centri. A tra poco. Sanatomi. Eccoci, 16:31 quasi, stavamo disquisendo con Bungaro e Massimiliano Pani per quanto riguarda l'ologramma in scena, che è un'avventura bellissima. C'è questa Tangram Studio, che ne parlo tranquillamente perché è l'unica, ce ne sono altre, stanno nascendo, però loro sono stati i primi e sono in tutto il mondo, hanno fatto anche Celine Dion, che non è che sta a Las Vegas tutti i giorni, è un ologramma, anche perché poi quando canta con Barry White ti accorgi che insomma qualcosa di strano c'è. Ed è affascinante, il tuo bello spettacolo potrebbe essere quella terza dimensione in più. Poi si chiama la Obi-Wan, la macchina che fa quello, perché giustamente Obi-Wan Kenobi di Star Wars è stato il primo ologramma così, ma tanto ci arriveremo all'ologramma quotidiano, alla telefonata con l'ologramma, sarà fantastico, siamo arrivati alla realtà virtuale vera, per cui la tecnologia va, mi fa un po' paura sì, la tecnologia. Per cui mi fa veramente un po' paura, ne parlavamo prima di questa modernità, di internet che ti avvicina a tutto il mondo, ma il rischio che si può costruire la parte negativa che ti può portare via da certe realtà. Se la sai usare... Ma i suoi ragazzi che non la sanno usare, mi fa paura, ci vuole un'educazione di base, pure mio figlio, sai, bene o male, internet con un click entri in un mondo porno subito in un attimo, eh sì. E cerchi di raccontargli un po' com'è quella realtà, che quelle sono bugie. L'ho detto anche a mia moglie, quelle sono bugie, insomma, sono brutte, sono realtà virtuali, insomma. Pino insegna. Ma no, ma quelle sono bugie, sono bugie, non sono realtà, ve lo dico a tutte le donne, sono finzioni, non è vero, insomma, non è assolutamente... Vedi, scusate, non riesco a fare un discorso serio per più di 23 secondi. Meno male. Devo distruggerlo subito dopo perché altrimenti crollo. Senti un po', che ci ascoltiamo ancora di questo Mare Dentro Live? C'è un pezzo che a me piace moltissimo che duettai con Fiorella, si chiama Il Deserto, e lì ho tentato di fare un viaggio in Giappone con l'arrangiamento. Ah, lì siamo stati. Tu stai attento, mi devi dire se è vero che ha fatto questo viaggio in Giappone, Massimiliano. Sì. Io sono qua. Sì, ma Massimiliano è sincero. Sono qua e ascolto. E ascolto. E allora scantiamo questo deserto. A quale destino siamo legati? A quale luogo invitati? E non esserci andati per una scusa banale, una distrazione. E sarà vero che ci si sente perduti alla fine di un viale in un giorno qualunque. E se fossimo andati, che faccia avrebbe avuto l'amore incontrato, l'amore incontrato. La cosa è certa è che ci siamo lasciati, ma continuiamo a vederci senza incontrarci. La cosa normale è che continuiamo a parlare e ogni volta a parlare quasi come morire. Perché nascosto in un angolo esiste uno spazio deserto, l'abbiamo diviso e poi condiviso. E tanto amato, nascosto nel cuore lo senti, spazio deserto dove abbiamo lasciato la parte migliore di noi, la parte migliore. È vero che mi riporta un po' Sakamoto, eh? Sì, è un amore per me. Come l'ha chiamato mia moglie una volta, Ricucci. Sakamoto, ho detto, non è quello, amore mio. Ricucci. A casa c'ho tantissimi. Sì. Ricucci. Lei si avvicina, ha fatto, ma chi è Ricucci Sakamoto? Ho fatto un imprenditore italiano con gli occhi, con gli occhi a mandorla. Ti prego. Cammina vicino al te nel deserto. Dai, sì. Come... Sì, sì. Chiaramente ne stiamo ascoltando. Sì, un brano, uno stralcio. Poi a un certo punto senti l'odore di Satie, di Sakamoto, ma anche di Michael Nyman, ma senza copiare, perché è importante. No, ricorda, non c'era Sakamoto qui. Noi veniamo da tanti ascolti, no, musicali, certo. E sono amori che poi riesci a farli, è come mettere su un piatto di pasta leggi tanti libri e poi ne scrivi uno, non è che copi i brani di ogni libro. Sì, è vero. Vieni, se tu riesci a farlo, la stessa cosa succede. Ma Massimiliano, tu dove ti attingi, dove cresci, dove ti abbeveri? Stava dicendo Bungaro Satie. Eric Satie è un musicista francese, belga in verità, poco conosciuto, ma dei più interessanti della sua epoca, che poi era la più interessante del Novecento. Non è più, è vero. 30 anni del Novecento sono usciti tutti, Stravinsky, Ravel, tutti. Questa gentaccia così. E Satie era amico di questo gruppo, no, di artisti che erano a Parigi in quegli anni lì, quindi Picasso, Cocteau, Ravel. Periodo di Parigi. E loro dicevano che Satie era il più creativo di tutti loro. Sì. E lui scriveva solo per pianoforte perché ce l'aveva in casa. Quando gli chiedeva, ma perché non scrivi per orchestra? No, perché è molto comodo. Ce l'ho qui. E viveva in due stanze. Una stanza aveva la cucina, il letto, l'armadio. E in un'altra stanza solo gli ombrelli. Gli ombrelli? Solo gli ombrelli. Certo. Era un personaggione. Non niente male, solo però gli ombrelli. A modo suo riusciva, in un'epoca di grandissima creatività, di grandissimo stravolgimento della cultura vera, musicale, a essere ancora più originale. Sì, sì, era molto delle cose che sono... Sì, sì, assolutamente. Ecco. Come diceva lui, lo hanno poi citato tutti, cioè Nyman, tutti i minimalisti citano Satie. Philip Glass, sì, sì. Come no. Assolutamente, sì, sì, tutta quella musica minimale attinge. Un musicista molto interessante. Devo dire che in quel periodo la Francia. Sono un po' invidioso della Francia di quel periodo, in effetti, sai, perché sono molto nazionalista. Negli anni del Novecento c'è stato tutto: c'è stata l'arte figurativa, la musica, impressionismo, il teatro, impressionismo. Cioè, è partito tutto da lì. Sono lì, erano tutti lì, vivevano poi, cioè la loro vita vista da noi è meravigliosa, vissuta da loro è stato un dramma, perché insomma chiunque loro è morto, a parte Monet, c'è qualcuno che è invecchiato normale, ma i Modigliani eccetera se ne sono andati molto presto e affamati. Soprattutto non ci sono stati grandi artisti che hanno avuto successo da subito, come da Picasso, come Puccini, che anche lui in quegli anni lì, nei primi del Novecento, era una star totale nel mondo con le sue opere. E altri che invece hanno fatto grande fatica, compreso Satie. Satie fu addirittura messo in galera, certo, perché un critico di una sua opera aveva detto che non aveva senso, che la sua musica, certo, era brutta, eccetera. E lui era molto essenziale. Lui fece scrivere, lasciò un'intervista dove diceva che quel signore lì è un culo senza ritmo. Bellissimo. Lo misero in galera per una cosa così. Hai capito? Adesso non neanche l'avrebbero ascoltata una cosa del genere. Ma bello, questo, ecco, questa è la cultura che bisognerebbe insegnare ai ragazzi. Nel senso, la cultura che travestita, che ti racconta storie. Vuoi far amare la musica rock ai ragazzi? Falli vedere School of Rock. Nel frattempo si sentono i Deep Purple, i Pink Floyd, Led Zeppelin, eccetera. E dico, oh, che bella quella scena che c'è quella musica. Posso riascoltarla? Sì. Ma si chiama passione, esatto, si chiama passione. Raccontata così. Però dipende proprio qual è lo strumento, perché basta riuscire a portarli ad ascoltare una cosa, la musica vince da sola. È vero. Cioè, se tu metti qua dei bambini e gli fai sentire Satie, dopo un attimo impazziscono, perché ci sono delle cose che arrivano da sole. La musica non c'è bisogno di spiegarla, se è bella arriva. Arriva. E bisogna solo trovare la maniera, la scusa, lo stratagemma, no? Per avvicinare la gente alla musica. Poi dopo leggo che non lo sapevo che Edoardo, il tuo piccolo bambino, ha duettato con Mina in Troppa Luce nell'album Selfie. È stato un attimo. Noi eravamo in studio, stavamo facendo un pezzo che lui aveva sentito, perché io avevo il provino a casa che stavo, certo, riascoltando per tirarlo giù, e lui è entrato dentro a 4 anni, ha detto lo voglio cantare. Allora mia mamma ha detto vieni, certo, se l'è messo in braccio e poi l'abbiamo tenuto quel pezzettino, l'abbiamo messo all'inizio del pezzo. Posso fare la stessa cosa? Metto in braccio a Mina e Bugaro, io ti in braccio a Mina. Bellissimo. Cominciamo, facciamo la voce da bambini. Stiamo aspettando di collegarci con un nostro amico, anche un tuo amico, e uno c'è adesso. Pronto? Pronto? Eccolo. Pronto? Eccomi. Dottor Alex Britti, benvenuto. Grande Alex. Ciao Alex. Ciao Massimiliano. C'è Tony Bungaro alla mia sinistra. Ciao Alex. Ciao Tony, come stai? Bene, molto bene. Piacere sentirti. Senti Alex, visto che insomma tu hai cantato un pezzo di Massimiliano Pani, scherzo ovviamente, c'è la canzone bellissima che fra te e Mina ve la siete pimpongheggiata, avete giocato a ping pong con Oggi Sono Io. Belli, com'è nato quel rapporto? Come è successo? Ti ha chiamato lei, ha detto voglio fare il pezzo, ti ha chiamato Massimiliano, prestami quel pezzo. Massimiliano, che all'inizio pensavo anche fosse uno scherzo, che ovviamente era il lontano, che era il 2000. Sì, sarà stato il 2000, sì. Non me l'aspettavo quando mi ha chiamato Massimiliano, no? Con la sua gentilezza. Oh, niente, questo torna questa eleganza, lo dicono tutti. Ma sarà una colpa? Un po' sì, forse, guarda, in questo mondo. Vedi? Comunque, no, con la sua gentilezza che mi ha chiesto il permesso, che la mamma voleva cantare quella canzone, mi ha chiesto addirittura il permesso. Io pensavo all'inizio fosse erano gli anni di scherzi a parte. Certo, sei un castrato. Fosse uno scherzo, invece no, poi era vero e ho avuto l'onore di sentirla, appunto, cantata da Mina, cantata, ricantata, poi l'ho vista nel DVD Mina in studio che è uscito, che conservo sempre gelosamente, e insomma, e poi il resto più o meno insomma si sa. Deve essere una grande soddisfazione per un cantautore come te, insomma, ricevere dal numero uno, dalla numero uno e dal numero uno anche, insomma, è bello, sì, assomigliava a uno scherzo in effetti, poteva assomigliare a uno scherzo. Io perché lei era il numero uno, io mi accontento già di essere un numero. Comunque, sei fortissimo. Io ci tengo a dirlo e lo dico sempre, che secondo me tu sei un autore importante che ha scritto delle cose molto belle. Ti scrivi dei pezzi difficili da cantare perché sei talmente musicista di testa. Si mette in difficoltà da solo, che scrivi delle cose che hanno uno sviluppo particolare, ma sei un autore secondo me molto personale e straordinario. Io sono grazie. Un tuo ammiratore, lo sai, te lo dico sempre, quindi non è che non è piaggeria. Senti un po', ma cucina meglio di come canta o canta meglio di come cucina? Mi dicono che cucina anche benissimo, questo io però non l'ho mai provato. Ah no, mi dicono, si narra. Io sto rischiando di accettare un invito a cena, però ho visto che cucina bene, perché insomma la trasmissione era lui che cucinava. Ci provo, mi diverto. No, sei bravo. Un mangione, però suona la chitarra mentre cucina, è questo che mi disturba. Non sei ferma di suonare la chitarra. Come fai a fare la pasta, le cose mentre suoni la chitarra? È difficile. No, suonare no. Fai gli spaghetti alla chitarra, giustamente. Ti mi dice Rachele, brava. Senza la musica. La musica mentre cucino è fondamentale. Musica a palla. Ma l'ascolti? Cucina. Che cosa ascolti mentre cucini, Alex? Questa non ti ho mai fatta questa domanda. Ma un sacco di cose allegre, principalmente le cose Stevie Wonder, Bill Withers. Ok, bello. Billy Joel, le cose molto allegre. Ah, andiamo sul pop gagliardo, insomma, quello che ti aiuta, sì. Tipo sì. Macchina decappottata e via. Esatto. Mettiamolo in sottofondo un attimo. Muore. Oggi sono io di Mina, cioè di Mina, nel senso ricantata da Mina. Di Alex Britti, ricantata da Mina, arrangiata da Massimiliano Ma Pani. Ma si guarda, in verità lì non è che ci sia un arrangiamento, lì funzionava. Sì, lì si è seguito lei. Ascoltiamolo un attimo insieme, Alex. Vai. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, questo pezzo è potrei bellissimo. Suonare sì, bello, molto paure e dirti tutto. È vero che Alex si complica la vita, fa dei pezzi difficilissimi. Stiamo parlando sul pezzo, ma non è un... Poi questo è un grande radio. Pezzo, sì. Eh? È mio. Non riesco a dirti neanche come stai. Parole mie. Stai bene con quei pantaloni? Con quei pantaloni. Dici che i romanisti ce l'hanno con i laziali. No, non dopo è vero. No, io ce l'ho da. No, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte. Aspetto che apre, E rovinare tutto. E fin qui lui è tranquillo, no? Alex ha la chitarra, lui che canta, e poi si complica la vita. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire. E via. Che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci. Senti la semplicità di Mina. Solo per portarti a letto e non me ne frega niente, se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Qui Alex si arrampicava, brividi davvero, grande sì. Alex, bello. È bello, era bello cantato da te, bello cantato da Mina, sì, bello, ma può nasce una nuova collaborazione, dai. Ma sempre quando vuole Alex, sa che sì, io sono sempre siamo felici di ricevere i tuoi pezzi. Con Massimiliano, ogni qualche anno ci proviamo, ci sentiamo. E facciamolo più spesso. Anche successo, insomma. Ah sì, dai. Sì, abbiamo anche lavorato insieme in studio. Sono l'unico che mi ha cantato con voi, sono amico di tutti e due. Però da 40 anni. Puoi fare una capisco. Carbonara se vuoi. Ma che è veramente una cosa brutta. Non mi si apprezza come cantante, Alex. Britti, ti vogliamo bene tantissimo. E ti auguro ogni bene, stai bene, abbraccia tutti quelli che sono intorno a te in questo momento. E grazie. E auguri di cuore. Grazie. Ciao, Britti. Grazie. Ciao Alex, ciao. Grazie presto, davvero. Grazie. Ciao bello ciao, mio. Ciao, grazie. Ecco, ma tutti i gentili uomini oggi è bello farsi. Sai che si respira una bell'aria. Devo andare in pubblicità, se no mi uccide Alessandro. E poi l'ultimo blocco insieme. Vai. Voice Anatomy. Eccoci signori miei, 16:48 minuti insieme per l'ultimo blocco con Tony Bungaro, Massimiliano Pani, abbiamo avuto da poco Alex Britti al telefono e concludiamo con questi due gentili uomini della canzone. Oggi questo è il leitmotiv della trasmissione, il fatto meno di... male ci sei tu che sei un poco alto. Sì, esatto, no ma è vero, ho abbassato un po' come tu prima, fra me e Rodolfo dicevi mi avete chiamato a me per valorizzare ancora più le vostre voci basse eccetera, io ho chiamato voi due per far capire qual è quello che viene proprio dalla terra, insomma io vengo da dalla base, voi siete più signori di me sicuramente. Ma che dici? No, è per farmi fare due complimenti, va bene. Allora, volevo collegarmi prima di finire anche con i nostri amici di Tutti Convocati, la trasmissione che seguirà la nostra, che beh, è finito il calcio, io il mio amico Capuano lo chiamo mai una gioia perché ogni volta che mi collego con lui a Lazio ha perso in qualche modo, eccetera. Però quest'anno devo dire che è andata molto meglio, infatti non mi collegavo quasi mai. Cioè la Lazio giocavo il sabato, il lunedì, per cui insomma mi sono salvato, ma questo per rendere un po' goliardica la trasmissione. Sono anche molto curioso di sapere cosa ha fatto il nostro Valentino Rossi, mezzo acciaccato, ma sempre anche lui, grande passione, grande curiosità. Il segreto della vita è quello. Dove te ne andrai in giro, Bungaro, con questo mare dentro? Beh, quest'anno... Italia te la fai adesso? Sì, sì, adesso partiamo già dal 30 di giugno, sarò alla... Dove siamo? All'anfiteatro di Lecce. Ah, giochi in casa lì, per cui sì, un bellico del mondo lì. L'1 di luglio sono a Biella, a Europa, a fare un concerto. Poi sono nel cartellone di questo Risorgi Marche con Neri Marco Re, con Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Brunori. Belle date. E poi Europa, belle... mondo. Sì, sì. Da ottobre, Parigi, poi c'è Aria di Osaka di Tokyo, perché questo è un disco che uscirà anche fuori all'estero. Vabbè, dilli che mi conosci quando vai giù. Assolutamente. Lì trovi mare proprio aperto. Sì, sì. Mare aperto. mare aperto, non mare dentro. Mare comunque, aperto. Venitemi anche a trovare sul mio profilo, dove ci sono tutte le notizie possibili. Abbiamo Facebook, abbiamo tutto. Sì, sì, Bungaro. Sì. Bungaro. Venite a trovare anche noi, voi Sanato, mi siete già tantissimo, ve lo ripeto. Abbiamo il collegamento, caro Max, con... Eccolo Capuano, da Milano, che ringrazio come sempre per la messa in onda tutti i nostri amici da Milano. Che succede oggi? Calcio? Niente. Calcio? Non è successo abbiamo niente. La coda di quello che è successo ieri. Vabbè. Che a me dispiace anche un po' questo tifo favore contro la squadra italiana, a fin dei conti, vabbè, forse mi farò qualche nemico, però io sarà che so così nazionalista che... Se c'è una squadra italiana, che sia la Roma, che sia la Juve, che sia una squadra direttamente antagonista nella mia vita, insomma io tifo Italia. Io oggi ho fatto il viaggio, questa notte ho fatto il viaggio di ritorno con tanti tifosi della Juventus e devo dire che prima o poi ce la faranno. Ma sì, ma sei a rompere lì, questo tabù, a rompere questa maledizione. Il problema è quello, Capuano, se tu come l'attrice Mary Strip sei candidata 16 volte, lo vinci 6 volte, non hai più la paura di non vincere o di essere solo candidata, ma quando sono 21 anni che vai in finale e non vinci, lo stress secondo me se l'è mangiati nei spogliatoi e quello è stato, dovevano combattere anche contro se stessi e non ci sono riusciti. Prima o poi perché, scopriremo, perché ha cambiato faccia tra primo e secondo tempo, questo è uno dei grandi misteri. Terza categoria, Dybala o Higuain non riuscì a stoppare la palla, dai su. Invece oggi è una grande domenica italiana. Esatto, Dino. Dimmi. Una grande domenica italiana perché al Mugello abbiamo fatto tripletta. Ha vinto Andrea Dovizioso con la Ducati nella MotoGP e tra l'altro anche Danilo Petrucci è salito sul podio. Quarto Valentino Rossi, il secondo è Vignales che è leader della classifica. Certo. Nella Moto2 ha vinto Mattia Pasini che è il primo successo nella categoria e nella Moto3 ha vinto prima volta in carriera Andrea Migno. Quindi abbiamo fatto la tripletta e l'inno di Mameli è risuonato come se fosse colonna sonora al Mugello. E ci siamo un po' riscattati insomma, dalle tristezze sportive italiane e non solo di ieri sera, perché c'è questo contrasto fortissimo di emozioni che ci ha accompagnato questa mattina al risveglio, anche insomma, leggendo che cosa è successo a Torino, leggendo le storie di Londra. Oggi ho avuto modo di passare da Londra per imbarcarmi, insomma, città assolutamente sotto shock sotto e preoccupata. Sì, vabbè, questo è un argomento molto delicato e ovviamente non vogliamo tramite questi microfoni cercare di mettere ancora più ansia, come vedi poi un botto che non ha niente a che vedere col terrorismo riesce a costruire una paura che può schiacciare 600 persone, migliaia di persone, 600 se ne vanno all'ospedale, qualcuno anche in gravi condizioni, per cui viviamo un momento veramente difficile, non sta certo a me in questo momento guarire da questo problema, insomma... Viviamo, cerchiamo di vivere con serenità, come stavamo dicendo oggi, fra gentili uomini, con grande rispetto l'uno dell'altro, con grande disponibilità nei confronti degli altri. Non voglio essere un francescano, ma insomma, basterebbe veramente molto poco. E i grandi che ci governano dovrebbero saperlo, ma fanno finta di niente. Senti, caro mio, non c'è nient'altro di sport, però sarei una trasmissione stasera molto ricca. Stasera c'è la finale d'andata dei playoff di Serie B per salire in Serie A, ma sarà una trasmissione ricchissima in realtà. Sì, c'è quello Benevento sempre. Carpi. Ci sei tu, Capuano. Ci sono io, c'è Carlo Genta, c'è Luigi Pardo, c'è Pardo. Abbiamo scovato anche dei tifosi della Juventus che oggi hanno voglia di parlare. Non è stato facile. C'è credo un tuo amico, Massimo Giletti. Sì, vabbè, ma lui c'ha sempre voglia di parlare, perché non vedo per quale motivo. Sì, però oggi erano tutti spenti, eh? Oggi sì, erano tutti spenti. Ma tu metti il microfono davanti a Giletti, non c'è nessun problema, si accende da solo. Capuano, ti abbracciano anche qui metaforicamente Tony Bungaro e Massimiliano Pani, lo fanno con molto distacco. Però, alla prossima, ma fan bene. Ciao Capuano, buona trasmissione. Ciao. Prossima domenica. Bene, no, c'è anche questa bellissima osmosi come c'è stata fra voi oggi pomeriggio fra le trasmissioni, devo dire che Radio 24 offre veramente un porto sicuro per chi vuole parlare, ha qualcosa da dire. Non è il mio caso, ma infatti chiamo persone che hanno qualcosa da dire. Però come lo dici tu con quella voce? Sì, sì, no, va bene tutto, va bene tutto. Cioè, non abbiamo capito, però l'hai detto. L'ho molto detto bene. Bene. Tanto di un discorso, come parlavo con Fussi e con Cosu, arriva l'8% del concetto, il resto è voce e corpo. Per cui per il 92% sono un uomo perfetto, l'8% è nullo, però... Resta la maggioranza, è corpo e voce. E devo dire che ho un corpo. Sì, poi per radio funziona. Ma io il mio successo lo devo a quello, diciamo la verità. Un sex symbol italiano. Bungaro, ti auguro ogni bene con questo mare dentro live. Abbiamo ascoltato alcuni brani, ma è soltanto una goccia in questo mare quello che abbiamo ascoltato. Ascoltatelo, non è pubblicità, non è proprio l'affetto. Esula dalla professionalità di Tony Bungaro e il grande affetto che mi lega ovviamente a Massimiliano Pani esula dalla sua grande professionalità e grande attenzione nei confronti di questo mestiere e della vita in generale. Un abbraccio a tuo figlio che sta intraprendendo la carriera di artista tutto tondo a Parigi. Sì, Parigi, a Parigi. Sì, ma certo, ha capito bene, a Parigi nascono quelli forti e lui sta a Parigi. Beh, quello era il Novecento. Ah, però... è vero. gli auguro ogni bene lo stesso. Un bacio a Edoardo, il piccoletto. Grazie. A casa, la tua dolce metà, tua madre, vabbè, ci sentiamo spessissimo per cantare insieme la sera prima di addormentarci. Certo. E va bene, il resto è noia. Grazie Pino, grazie. Tony Bungaro, in bocca al lupo, Massimiliano Pani, grazie. Grazie Alessandro, grazie Rachele, grazie a Mauro e ad Alessia, grazie a voi che ci volete sempre più bene e ci sentiamo domenica prossima con altri ospiti e un'altra avventura insieme a Voice Anatomy e Radio 24. Ciao.